A tempo di sport con Carlo Genta. Buon pomeriggio a tutti, Giorgio De Luca in redazione, Filippo Aureggio in regia per questo pomeriggio che non sarà, perché Pazzini così ha deciso, da guastafeste con la G maiuscola, e lo sapete benissimo, l'anno scorso insomma, guastò in maniera molto più pesante la festa della Roma, questo giro ha impedito al Milan di festeggiare in casa con 3 giornate di anticipo sulla chiusura dello scudetto. L'esito non è in bilico di questo campionato, questo lo sappiamo. Il Milan sta vincendo con il Bologna 1-0, gol di Flamini dopo 8 minuti, ma il bus a due piani resterà in parcheggio e i due ristoranti prenotati per la festa questa sera avranno cibo e tavoli per gli avventori della cena del 1° maggio, le bottiglie resteranno in freezer, gli ambulanti aspetteranno a vendere le magliette con il 18 celebrativo, eccetera eccetera eccetera, perché così ha deciso Pazzini. Dunque 1-0 per il Milan, gol di Flamini. Altri risultati: Catania, Cagliari 0-0, ma in questo momento c'è un'espulsione e tra poco ve ne diamo conto. C'è la Fiorentina che sta battendo largamente l'Udinese 4-2 da copertina, il gol di Vargas dopo 9 minuti, raddoppio di D'Agostino al 22esimo, accorcia Pinzi al 29esimo, nella ripresa ancora D'Agostino con un tiro deviato da Zapata al 13esimo, Asamoah in posizione sospetta, soprattutto di Denis che gli ha fornito l'assist. Al 26esimo, quindi poco fa, Cerci su pallonetto, con un pallonetto su lancio di Berami, anche qui in posizione che non ho ben capito se regolare oppure no. Detto del Milan, 1-0 sul Bologna, dopo 8 minuti segna Flamini. Il Parma sta per festeggiare invece, loro sì, gli emiliani, giorno di festa, la salvezza, sta vincendo 2-1 con il Palermo, gol di Zemaili e di Modesto, e poi una ripresa segnato Pastore accorciando le distanze. Quindi è incredibile la ripresa di Sampdoria a Brescia dopo un primo tempo gonfio di paura. Nella ripresa al 5° Eder con il gol del vantaggio bresciano ha tolto il tappo a questa partita. Dopo 5 minuti ha pareggiato Pozzi di testa, al 13esimo Brescia di nuovo in vantaggio con la Sampdoria ferma a protestare per un fallo in area su Pozzi, ferma a protestare, subisce il contropiede direttamente sul rilancio del portiere Arcari, segna Caracciolo. Al 18esimo destro in corsa di Tissone ed è temporaneo 2-2 molto pesante per la lotta a salvezza. Io saluto Giovanni Capuano, nostro inviato al telefono di oggi. Ciao Giovanni. Ciao Carlo, buon pomeriggio. Allora, dammi conto innanzitutto dell'espulsione di Catania, cos'è successo? È stata l'espulsione per Alvarez, che aveva toccato alle spalle e fatto cadere Kossu, fallo da ultimo uomo assolutamente netto perché Kossu si stava involando verso la porta di Andujar, quindi cartellino rosso diretto. Catania che chiude in 10 quest'ultimo quarto d'ora, e tra l'altro Catania che oltre ad Alvarez ha perso anche Ledesma, ammonito, perso per la prossima gara importante, delicatissima, a Brescia, una trasferta fondamentale sulla strada della salvezza. Dunque Catania che gioca in 10 l'ultimo quarto d'ora e avrà problemi di formazione tra una settimana. Giovanni, ti chiedo altre due letture. La prima, quella del gol di Cerci, che ho visto ai monitor mentre stavamo per entrare in onda, con qualche protesta dell'Udinese sul lancio di Berami. Era fuori gioco o no? Eravamo sul filo, difficile da decifrare, molto meno difficile, credo tu ne abbia già parlato invece in occasione del 3-2 il gol di Asamoah, dove c'era addirittura un doppio fuorigioco di Denis e Asamoah. E un'altra valutazione che ti chiedo, sempre sul fronte arbitrale, anche perché è un episodio importante, quello del gol del raddoppio del Brescia, con la Sampdoria tutta ferma a protestare intorno a Pozzi a un presunto rigore. Chiaramente, se lì c'è stato errore, più grave ancora è stato quello, l'atteggiamento della Sampdoria che ha beccato gol sul rilancio con le mani di Arcari, che è pazzesco, in Serie A non si vede mai. Come ti è sembrato quell'episodio? Ma guarda, in realtà le immagini non hanno chiarito molto. C'è da dire che Pozzi è la terza volta dall'inizio della partita che va giù in area di rigore in maniera abbastanza spinta. Ti segnalo però che c'è il gol del Catania, 33esimo. Catania dunque in vantaggio 1-0 contro il Cagliari con Silvestre, gol questo pesantissimo perché porta Catania a quota 40. Porta Catania a quota 40 e questo sia un gol pesante. Catania, tra l'altro, stavamo radicendo in inferiorità numerica, e questo è il gol che potrebbe garantire, che potrebbe valere per il Catania la salvezza. Gol in mischia su azione di calcio d'angolo di Silvestre, palla che viene respinta corta dal portiere del Cagliari, e Silvestre che da due passi tira e centra il bersaglio. Giovanni Capuano resta collegato con noi per il finale di queste partite. Siamo ad esempio a Catania al 34esimo, forse un po' in anticipo rispetto agli altri campi, comunque intorno al 35esimo sui prati di Serie A, ricordo Milan in vantaggio 1-0 sul Bologna, ma ancora non matematicamente campione d'Italia. Chiamate quando volete, 800 24 00 24 è il numero verde per intervenire da ora fino alle 19. E adesso però voglio parlarvi anche di quanto abbiamo visto nel pomeriggio a Estoril, dove Pedrosa ha vinto la gara, Valentino Rossi insomma è andato un po' meglio rispetto al solito, pur non riuscendo a salire sul podio. Quinto posto per Valentino Rossi, preceduto anche da Dovizioso, e per Rossi miglior risultato fin qui nella stagione. Però Pedrosa festeggia. Mario Poltronieri, buonasera. Buonasera, ciao Carlo. Che corsa è stata? Ma senti, consenti una battuta audace, è caduto il muro di Berlino, è caduto il muro di Valentino, nel senso che se hai notato tutti adesso corrono senza quel timore reverenziale che avevano nei confronti di Valentino, cioè si sono resi conto che la sua moto purtroppo non gli consente di esprimersi come sono le sue capacità, e lo si è visto per esempio nelle prove di ieri, quando Valentino ha cercato di tallonare Simoncelli, altro grande protagonista con qualche errore di troppo in questa gara, e proprio si vede che la moto non rende a sufficienza per competere sia con la Yamaha sia con la Honda. Stoner, che è arrivato terzo, diciamo non è più brillante come all'inizio del campionato, però il campionato tutto sommato è ancora abbastanza raccolto, quindi ci sono possibilità un po' per tutti. Diciamo complimenti a Pedrosa perché era ancora in un certo senso convalescente, quindi ha fatto una corsa intelligente, molto impegnativa. Spettacolare nel senso che i due grandi avversari sono sempre stati vicinissimi, ma poi c'è da ricordare anche questi errori che credo siano imputabili non solo all'errore delle persone, ma anche al tipo di circuito che ha delle curve che sono abbastanza difficili da interpretare. Sì. Comunque Simoncelli ha detto ho lasciato la seconda invece di metterla prima, però comunque altri sono caduti, Spies e così via, quindi diciamo è stata una corsa divertente, interessante, però per Valentino bisogna che la Ducati si dia molto da fare, sì. Perché poveretto, lui sta andando benissimo compatibilmente col mezzo che ha, non so cosa può fare di più. No, certo, già qualche piccolo progresso l'ha fatto. Piuttosto, Mario, io direi sentiamo le voci dei primi due della classe oggi, a cominciare da Dani Pedrosa che ha vinto la corsa. Le ultime 15 giri sono stato durissimo per la spalla, e quando facevo il cambio di direzione era molto, molto dura, però la gara è stata incredibile, sono veramente contento perché dopo un intervento così importante ritornare qui e essere il primo subito è una cosa incredibile per me, devo ringraziare tutti i dottori, tutta la gente che mi ha aiutato a essere qui. Tamotti oggi ha lavorato molto bene, sono stato dietro Jorge perché lui qui va molto molto forte, ma ero lì con lui alla fine, non pensavo di stare tanto tempo con lui, ma ho visto che ero con lui e ho detto devo provare perché già sono qui e si deve fare qualcosa, e alla fine oggi ha riuscito. Quando ci sono provato sono fatto un po' di differenza con lui e alla fine una vittoria incredibile per me. Intanto vi segnalo il raddoppio del Catania sul Cagliari e lo facciamo raccontare subito a Giovanni Capuano, giusto per rimanere in strettissima cronaca. Sì, raddoppio che è stato firmato da Berghesio, con la difesa del Cagliari abbastanza ferma su un'incursione centrale, l'ennesima ribattuta corta con un uomo del Catania, in questo caso Berghesio il più veloce, all'altezza dell'area piccola di rigore del Cagliari, palla in rete 2-0, tutto questo con il Catania in 10. Tutto questo con il Catania in 10, bandiere rosa azzurre già pronte per una festa salvezza che con questa vittoria insomma potrebbe essere scontata. Catania che si arrampicherebbe, uso ancora i condizionali, a 40 punti insieme al Bologna, mancherebbe davvero poco per la certezza matematica. Torniamo al motomondiale e sentiamo Jorge Lorenzo e poi ho subito una domanda per Mario Poltronieri su un equilibrio del motomondiale che è partito con Stoner che sembrava e la Honda che sembravano imprendibili per tutti, adesso ho l'impressione che il vento sia già cambiato nel moto mondiale a favore dell'attuale campione del mondo. Lorenzo, sentiamolo. No, desilusione mai. Desilusione viene quando tu non fai il massimo, quando tu non dai il massimo, ma quando fai una gara competitiva come oggi, dai il 100% in tutti i giri, sei contento. E oggi Dani è stato più bravo che noi, più veloce. Magari io mi è stancato troppo, no? al sempre girare primo e sempre provare ad andare più veloce. Lui solo teneva che seguirmi, ma questo non le resta nessuno merito alla sua velocità, alla sua grande passo e al suo grande finale di carriera. Lui è stato il migliore, ha vinto la gara, 25 punti, noi 20. Seguiamo liderando e mancano ancora tante gare. Questo era Jorge Lorenzo, una voce di moto e un gol e una voce di moto. Altro gol importantissimo per la lotta per non retrocedere, lo segna il Brescia, Giovanni Capuano. E questo è un gol davvero pesantissimo ed è la doppietta personale di Caracciolo, l'airone che è andato su altissimo di testa su un cross dalla destra di Diamanti e lasciato incredibilmente solo a 3 metri dalla porta di Curci, colpo di testa e gol del 3-2, Sampdoria che torna nelle ultime 3 posizioni, anche se in questo momento sarebbe ancora virtualmente salva, seppure a pari punti con il Lecce. Brescia e che sale a quota 33. Brescia che Lecce che ricordiamo sempre sotto 1-0 sul campo del Chievo, gol di Rigoni dopo 13 minuti della ripresa. Allora Mario, dopo queste digressioni vocali per quanto riguarda Lorenzo e Pedrosa calcistiche, la domanda è questa: Stoner sembrava il favorito, no? Dopo le prove invernali e dopo le prime gare di questo, primi battiti di questo moto mondiale, adesso dovessi scommettere un euro, lo punterei su Lorenzo. Beh, effettivamente Stoner è calato in questa fase perché evidentemente qualche problema ha trovato sulla moto, perché non si può smentire quello che comunque lui ha fatto nel precampionato e all'inizio. E diciamo che Lorenzo ha dimostrato ancora oggi di aver raggiunto ormai una maturità, per cui ha capito che non gli conveniva comunque rischiare oltre. Non dico che l'ha lasciato passare, ma insomma non ha forzato poi il tentativo di recupero nei confronti di Pedrosa. Pedrosa, come si è sentito, ha ragione, è stato bravissimo. Il campionato, come ti dico, si è in un certo senso riaperto, anche perché Valentino, che noi ci aspettiamo sempre sul podio, in realtà non è più comunque il grande protagonista che può decidere come vadano le cose, cioè lui vince e poi tutti gli altri sono, diciamo, dei comprimari. Adesso lui è un grande protagonista, ma non è più il vincente con quella macchina lì. Sì, certamente non è più l'uomo da battere adesso, però mi sembra davvero Lorenzo un uomo da battere, campione del mondo in carica. È un Lorenzo che, tu dicevi, insomma, non è nemmeno stato a sportellate, a dannarsi l'anima nel duello con Pedrosa. Forse un Lorenzo che impara addirittura a gestire un vantaggio emotivo che comincia ad avere. Infatti. Sbaglio? Poi senza dubbio, no, ma quello lo si è capito che quest'anno ha fatto un ulteriore passo verso la maturazione, nel senso di essere convinto delle proprie capacità, dei propri mezzi, di quali sono le caratteristiche che ha che possono servirgli per prevalere sugli avversari e sulle macchine avversarie. Diciamo comunque che Yamaha qualche passetto avanti l'ha fatto, perché prima la Honda sembrava imbattibile in velocità, certo. Mentre invece una nota, secondo me, a parte l'errore di Simoncelli comprensibile all'inizio, diciamo che si è messo in luce, anche se non è ancora un protagonista della squadra Honda, Dovizioso, che ha soffiato il quarto posto a Valentino sugli ultimi metri. Sì, grazie Mario, buon lavoro, un abbraccio, ci sentiamo prossimo weekend naturalmente. Vi aspetto anche 800 24 00 24, mentre ora c'è il traffico, ma subito dopo vi racconteremo il quinto gol della Fiorentina che ha chiuso la pratica udinese, un Udinese che ormai, insomma, mi sembra che in questo finale di campionato abbia, nonostante quanto ha detto ieri Guidolin, di benzina nel serbatoio ce n'è ancora, a me non sembra, perché siamo, se non ricordo male, alla quarta sconfitta che sta arrivando nelle ultime 5 partite, ha vinto soltanto a Napoli, spegnendo il sogno del Napoli questa Udinese. Quinto gol della Fiorentina dunque, ma ho visto anche sventolare un cartellino rosso a San Siro, dopo il traffico proviamo a capirne di più. Giulietta, l'auto più sicura della categoria, con nuovo motore diesel JT DM2 da 140 cavalli. Vi presenta Strade in diretta. Ben trovati, ci sono code sull'autosole ora per un incidente tra Parma e l'allacciamento con la 15 della Cisa in direzione di Milano. Scorrevole la circolazione sul resto dei percorsi, ma le condizioni meteo restano instabili al sud, con cieli in prevalenza nuvolosi e piogge sparse. A chi è in viaggio sulla 3 Salerno-Reggio Calabria raccomandiamo prudenza anche per la nebbia, che riduce la visibilità tra Lauria e Lago Negro, tra Pizzo Calabro e Vibo Valentia e poi anche tra Palmi e Scilla. Infine a Roma città è in corso il tradizionale concertone del primo maggio in piazza San Giovanni. La piazza e le zone limitrofe sono chiuse al traffico, chiuse per motivi di sicurezza anche le stazioni San Giovanni e Manzoni della linea A della metropolitana. Ed è tutto. A tempo di sport. Dunque, io ho anche un messaggio relativo a quel cartellino rosso che tra poco Giovanni Capuano ci racconterà, che si è alzato nel cielo di San Siro. Maria Rosa da Bologna che scrive via SMS: l'espulsione di Della Rocca è inesistente, vogliono far vincere per forza il Milan. Che amarezza, tifosa delusa di questo calcio italiano, voglio la serietà e il rispetto del campionato spagnolo. Forse quest'ultima considerazione è un po' intempestiva, magari la giriamo a Guardiola e a Mourinho, con calma. Giovanni, che succede? Beh, allora, espulsione effettivamente molto, molto difficile da decodificare. Io te la racconto, su un'azione di Gimenez del Bologna c'è un intervento da dietro di Ambrosini, un intervento certamente falloso, De Marco fa proseguire, sul prosieguo Della Rocca entra dietro su Nesta, intervento certamente falloso, ma con Della Rocca che stava cercando il pallone, rosso diretto per il centrocampista del Bologna, proteste grandissime da parte degli emiliani, che tra l'altro negli ultimi 10 minuti per ben 2 volte avevano sfiorato il gol del pareggio con un Milan in netta difficoltà, 2 colpi di testa di Gimenez e Britos l'hanno presa davvero male, quelli del Bologna, questa espulsione, quindi questa è la chiave di lettura. Ti racconto anche 2 gol, uno, quello del 5-2 che avevi annunciato della Fiorentina, che in realtà è poco importante perché partita ampiamente chiusa, un sinistro di prima intenzione di Cerci su traversone basso di Marchionni. Molto più importante invece il 3-1 del Parma contro il Palermo, firmato da Candreva. Firmato da Candreva, il gol della Fiorentina segnato da Cerci. Da Cerci, cioè Mihajlovic che ha trovato un super goleador in questo finale di stagione, e non esattamente quello che ti aspetti, perché Cerci ha aspettato appunto questa fine di stagione per piazzare diverse marcature nell'ombra di un Gilardino che non riesce invece più a pungere. Intanto, mentre aspettiamo la fine delle partite, anzi vi riepilogo i parziali, mentre ci resta il recupero da vivere, ad esempio 3 minuti a San Siro, con il Milan sempre in vantaggio 1-0, gol di Flamini dopo 8 minuti e superiorità numerica per i rossoneri. Chievo 1, Lecce 0, gol di Rigoni, risultato che però deve andarsi a combinare con quello che ha appena cambiato di nuovo a Genova, Giovanni? È cambiato ancora, sì, ha pareggiato Mannini nel primo dei 5 minuti di recupero, Samp che era protesa in avanti alla ricerca del pareggio, è arrivato con un sinistro di Mannini sotto misura al termine di un'azione personale, 2 finte, tutto il Brescia era chiuso nella sua area di rigore, sinistro sul primo palo, gol del 3-3, un gol che rischia di essere pesantissimo, anche se in realtà è evidentemente un risultato che non può essere soddisfacente per la Sampdoria, però non solo la Samp in questo momento sarebbe salva, ma addirittura avrebbe un punto di vantaggio sulla zona caldissima della classifica, 36 Samp, 35 Lecce. Senti, a giochi fatti è una follia, ma secondo te chi si salva? Ma credo, a giochi ancora in corso, devo finire partita. La sensazione, io credo Lecce, perché se si guarda il calendario della Sampdoria fa paura, perché al derby ha la trasferta a Roma, contro la Roma, e ha in casa al Palermo, e sinceramente è una squadra che è appesa ai nervi. Sì, una squadra che è appesa ai nervi, che però ha vinto domenica scorsa a Bari una partita fondamentale, e se oggi, visto come si era messa la partita, riesce a non perderla, secondo me è un passo abbastanza importante. Comunque uno dei pochi verdetti ancora davvero in bilico è questo relativo al terzultimo posto. Ricordo Lecce che sta perdendo 1-0 a Verona con il Chievo, poi Fiorentina che ha chiuso il discorso con l'Udinese 5-2, il Parma che invece può già far festa, sta vincendo 3-1 con il Palermo. Giusto per, mentre aspettiamo la fine delle partite, per cominciare ad aprire le danze delle discussioni che ci aspettano fino alle 19, 800 24 00 24, numero verde, mentre il Milan prova a chiudere la partita in contropiede ma non ci riesce, Bologna ancora combatte. Io vi voglio far sentire cosa ha detto Leonardo ieri dopo questa incredibile vittoria firmata Pazzini. Pazzini, il guastafeste a Cesena. Sicuramente era tutto calcolato, eh? Era tutto organizzato già da prima, tutto perfetto così. No, a parte gli scherzi, difficile, sì, primo tempo, ma anche il secondo abbiamo avuto difficoltà. Dopo rimontare in questo modo, Pazzini veramente entrato in gara, ha avuto i palloni che ha bisogno e li ha messi dentro. Ma no, noi pensiamo a noi, noi pensiamo a noi, perché oggi abbiamo un po' messa anche in questo modo di chiudere un discorso, diciamo, Champions, mantenere un secondo posto, che oggi stiamo parlando di una Nata che comunque ha avuto tanti problemi. E dopo vincere così, vuol dire, non è la prima rimonta, no, di quest'anno. Ma vincere in questo modo qua è veramente incredibile. A gennaio sono arrivati 4 giocatori che anche hanno giocato tante partite, se pensiamo a Nagatomo, a Pazzini, a Ranocchia e a Cargià. Abbiamo già pensato, diciamo, piano piano a quello che erano, diciamo, le cose che potevamo fare. Sono sempre ritocchi, perché credo che una base c'è, una base rimane. È vero che quando finisce la stagione si pensa a quello che è possibile. Il mercato è sempre molto strano tante volte, no? Di trovare i giocatori che possono dare veramente il tocco per migliorare. Quindi credo che ci sarà tempo per farlo, ma credo che comunque è una rosa che c'è. È una domanda fin troppo banale che sono fatti moltissimi, che ci si continua a fare. Ma Leonardo sarebbe lì con questi che sono arrivati, a gennaio insieme a lui, se li avesse avuti Benitez? Mi sembrano discorsi abbastanza stucchevoli comunque, e comunque ancora di attualità. Ecco, sarebbe lì Leonardo, ma sarebbe lì a festeggiare o quasi il Milan che ha chiuso la partita con il Bologna con un sacco di rabbia emiliana, mi pare. Berlusconi in tribuna insomma ha sentito il fischio finale, non si è alzato in piedi, non ha fatto una piega, mentre intorno a lui tutti esultavano. Quelli della panchina del Bologna invece sono girati, chissà che cosa hanno detto. Giovanni, hai qualche idea? Non hanno detto niente di bello. Ti voglio segnalare che si gioca ancora soltanto su due campi, sì. Tra l'altro sono due partite assolutamente apertissime con dei finali caldissimi. C'è il Lecce tutto proteso in avanti a Verona per cercare il pareggio contro il Chievo, gioca addirittura a porta vuota perché anche il portiere si è spinto. Chievo che va vicinissimo al raddoppio, e c'è stata anche qualche momento di tensione invece a Genova fra Samp e Brescia. Qui è la Samp protesa a cercare il gol del 4-3. Ci sono state alcune proteste. Si gioca ancora su questi due campi. Il Lecce sta giocando costantemente in 12 nell'area di rigore del Chievo. Sì, con Rosati 11, che scusa, è finita in questo momento, mi pare. No, è finita, sì. È finita, dunque il Lecce perde 1-0 a Verona con il Chievo, e di Rigoni al 13° del secondo tempo il gol che dà la salvezza al Chievo, dopo respinta di Rosati su una conclusione di Pellissier. Dunque tutti i finali in Serie A, mi confermi? Tutti i finali in Serie A, con il Catania che batte 2-0 il Cagliari, e anche in questo caso siamo a salvezza raggiunta o quasi. 2-0 i gol di Silvestre al 33° e Berghessio 37° della ripresa, quindi Lecce che perde 1-0 a Verona nel Chievo, come detto, la Fiorentina che batte 5-2 l'Udinese, e che mi pare, insomma, Udinese che si ritira dalla corsa verso quel quarto posto che resta in mano alla Lazio che domani avrà una specie di match ball all'Olimpico contro la Juventus, anche se attenzione alla Roma che sta rimontando forte, che ha messo nel mirino quel quarto posto. Roma che gioca stasera in casa con il Bari, ipotizziamo 3 punti, sarebbero 59, uno in meno rispetto ai cugini, e alla pari di un Udinese che, come detto, mi pare ormai abbia esaurito le scorte. Milan che batte 1-0 il Bologna ed è a un punto dalla festa che oggi non ci sarà, ma che arriverà magari sabato prossimo all'Olimpico, cioè Roma-Milan, non ricordo. Quindi il Parma batte 3-1 il Palermo, i gol di Zemaili, Modesto, Pastore per accorciare la distanza all'11° e Candreva a chiudere definitivamente la partita. E questo 3-3 incredibile, tutto nel secondo tempo, tra Sampdoria e Brescia per una lotta a salvezza che attualmente vedrebbe il Lecce terzultimo e retrocesso, il Brescia quasi, insomma 31 punti per Rondinelli. Comunque oggi ho giocato una signora partita a Genova, fatto salvo qualche errore difensivo. Sopra c'è Bologna e Catania a 40 punti, che sono praticamente salve o quasi. Cesena ne ha 37 e a parer mio la salvezza la meriterebbe ampiamente. E insomma, si va chiarendo anche la geografia della zona calda della classifica. Io ringrazio Giovanni Capuano per gli aggiornamenti che ci ha dato su questa giornata ancora non definitiva, ma quasi, in attesa di Roma-Bari e poi domani di Lazio-Juventus. E subito dopo il GR riepilogheremo tutto, cominceremo a sentire qualche voce su questa giornata di campionato del quasi scudetto del Milan. Cominceremo, io spero, anche a sentire le vostre voci. 800 24 00 24, il numero verde. A proposito, prima del GR, del messaggio di Maria Rosa da Bologna e della serenità e del rispetto del campionato spagnolo, di cui Maria Rosa scrive, di cui io al momento non sono convintissimo, vi do una notizia carina, che è questa: sarà il belga Frank De Blecker l'arbitro di Barcellona-Real Madrid, semifinale di ritorno di Champions in programma martedì. Frank De Blecker, che qualcuno se lo ricorderà, è quello di Barcellona-Inter dell'anno scorso, che espulse Thiago Motta per quella manata a Busquets con conseguenti strali di Mourinho. Gli hanno regalato dunque De Blecker per garantire serenità a questa partita di ritorno, che comunque non penso avrà moltissimo da dire sul piano del risultato. Insomma, ci sentiamo dopo. Perché? Perché? Perché Ovrebo? Perché Musaka? Perché De Blecker? Perché Stark? Perché? Perché De Blecker torna, perché De Blecker torna, evocato da Mourinho ormai famosissima conferenza stampa del dito e della luna, perché così è, mi sembra fin troppo banale sottolinearlo di nuovo, e forse fin troppo banale sorprendersi di nuovo di fronte alle strategie di Mourinho, che ha indicato a tutti che ha mostrato a tutti il dito, impedendo a molti di vedere la luna di un Real Madrid l'altra sera. Sbagliato. Comunque De Blecker torna e arbitrerà Barcellona-Real Madrid di martedì. Risultato in questo caso, secondo me, assolutamente non in discussione, con il Barcellona che da grande squadra dovrebbe riuscire senza troppi problemi a gestire la qualificazione, e chissà cosa avrà poi da dire lo squalificato Mourinho. Però torniamo, ne parliamo naturalmente poi insieme, 800 24 00 24. Una notizia mi è sembrata troppo carina, troppo gustosa per andare a recuperare subito quel brano di conferenza stampa, grazie a Giorgio De Luca in redazione, poi c'è Filippo Oreggi in regia. Vostro numero verde 800 24 00 24 per le telefonate in questa giornata del quasi scudetto del Milan e del Pazzini guastafeste, di una lotta a salvezza in cui si comincia a intravedere qualcosa, in una corsa verso il quarto posto che attende delle risposte da tra stasera e domani sera riguardo alle romane, ma magari anche alla Juventus. Insomma, abbiamo tanti temi interessanti di cui discutere. Sono anche curioso di sentire le voci del Bologna, un Bologna che mi è sembrato piuttosto incavolato dopo la fine della partita con il Milan per l'espulsione di Della Rocca e per alcuni episodi che magari tra poco ci facciamo raccontare dal nostro inviato Dario Ricci. Intanto io vi do un riepilogo dei risultati e vi leggo la classifica di Serie A tre giornate dalla fine. Risultati che sono questi, quelli di ieri con i guastafeste Pazzini, che ha permesso all'Inter di vincere 2-1 a Cesena, il Napoli che in maniera abbastanza scontata per mille motivi ha battuto 1-0 il Genoa con gol di Hamsik. Oggi pomeriggio c'è il Catania che si è tirato fuori in maniera pressoché definitiva dalle angosce con un finale in cui è rimasto in 10 al 28esimo della ripresa sullo 0-0 per espulsione di Alvarez, e 5 minuti dopo ha trovato il gol del vantaggio con Silvestre, e al 37esimo quello della certezza e della quasi festa con Bergessio. Quindi si salva anche il Chievo, che batte 1-0 il Lecce inguaiando però i salentini, gol al 13esimo del secondo tempo di Rigoni dopo una respinta di Rosati su conclusione di Pellissier. La Fiorentina si è sbarazzata senza molte difficoltà di un Udinese che è rimasta a secco di benzina proprio in vista di un traguardo che immagino sarebbe stato importantissimo per il club, cioè quello del quarto posto. Oggi perde 5-2 senza troppe attenuanti l'Udinese, con il gol più bello della giornata e uno dei più belli del campionato a mio parere, che è quello di Vargas dopo 9 minuti su cross da destra di Cerci, sinistro al volo a incrociare di Vargas, meraviglioso, in mischia al 2-0 di D'Agostino. Molto bello, molto molto bello anche il gol del 2-1, gol dell'Udinese segnato da Pinzi, con simile a quello di Vargas, con un tiro, un destro al volo a incrociare dopo un rimpallo in area. Nella ripresa D'Agostino con tiro deviato da Zapata, Asamoah per il 3-2, poi doppietta di Cerci a chiudere il discorso. Vi faccio sentire al volo Allegri con Sky. Dalla matematica in tre partite cercheremo di farlo. Non è stata una partita facile, nel primo tempo abbiamo fatto discretamente bene, poi nel secondo tempo siamo un po' calati, anche perché avevamo giocatori che non giocavano da diverso tempo, e il Bologna ci ha messo un po' sotto pressione, anche perché sicuramente in queste partite c'è un po' più di tensione rispetto alle altre, perché sai che non puoi sbagliare, però i ragazzi hanno fatto il possibile, abbiamo sofferto e alla fine ci siamo riusciti a portare a casa questa vittoria. Però insomma, al di là della tua diplomazia, quello che abbiamo visto in campo, quello che abbiamo visto sugli spalti, abbiamo visto fino a pochi secondi fa, compreso Adriano Gagliani che quasi ballava con Flamini qui vicino agli spogliatoi, era tutto molto simile a una festa scudetto. Ma io credo che a questo punto perdere tre partite è difficile, nel calcio ci sta tutto, però insomma a noi basta un punto, abbiamo anche un'altra partita in casa, quindi ora prepareremo la partita di Roma, anche perché poi dopo quella abbiamo la semifinale Coppa Italia, quindi cercheremo di raggiungere la matematica a Roma e poi per andare a Palermo e cercare di raggiungere la finale Coppa Italia. Ci puoi raccontare cosa pensavi di Pazzini fino al 90esimo di ieri? Cosa hai pensato al 96esimo e cosa sta dicendo Berlusconi nello spogliatoio? Fino a pochi secondi fa c'eri anche tu nello spogliatoio del Milan. No, ho salutato il presidente, era contento della vittoria di oggi, è importante per lo scudetto. Per quanto riguarda cosa pensa Pazzini, che è un ottimo giocatore e ieri l'ha dimostrato, soprattutto quando è entrato in campo, ha colpito 4 volte la palla di testa, 2 volte è andata fuori, 2 volte ha fatto gol, quindi credo che quando giochi contro queste squadre come l'Inter, fino alla fine devi sempre stare in tensione. Purtroppo per noi ieri siamo passati da un momento magari di felicità per la sconfitta dell'Inter o dell'eventuale pareggio, a un momento in cui magari di amarezza, ma sapevamo che tanto dovevamo vincere una partita, era quella di oggi e quindi l'abbiamo fatto nel migliore dei modi. No, Allegri usa un magari e prova a dissimulare di magari felicità per la sconfitta dell'Inter, il pareggio oggi, insomma c'era aria di festa a San Siro, stadio tutto esaurito, si aspettava solo insomma il momento di tirare fuori le magliette con il numero 18 sopra. Quel momento è stato rinviato da Pazzini, ripeto, meraviglioso questa festa, addirittura le Physique du Roll, no? Cioè quell'aria da bambino che la fa sempre franca e che ci gode un mondo a giocare questi scherzi, crudelissimo quello dell'anno scorso alla Roma, più goliardico se vogliamo questo giocato ai cugini del Milan. Torniamo però ai risultati, alla classifica, prima di collegarci con San Siro. E siamo proprio alla partita del Milan, alla vittoria del Milan con questo gol di Flamini dopo 8 minuti su imbeccata di Robinho. Flamini che in corsa salta netto un avversario, lì molto bravo, si fa rimpallare il primo tiro da Viviano, ma riesce a recuperare la ribattuta e a segnare in tapin questo gol quasi scudetto per i rossoneri. Nella ripresa Bologna molto più vivace, c'è l'espulsione dalla Rocca che ha fatto molto arrabbiare gli emiliani, ma finisce 1-0 per il Milan a un punto dalla festa. Se dicevo il gol più bello della giornata e uno dei più belli del campionato è stato quello di Vargas, certamente il più comico è stato quello dell'1-0 del Parma sul Palermo dopo 2 minuti, con Sirigu che sull'appoggio di un compagno rinvia addosso a Zemaili che si gira per non prendere la pallonata in faccia, con una parte imprecisata tra corpo, tra schiena, sedere, eccetera, riesce a segnare questo gol dell'1-0, ma abbastanza comico anche il gol del raddoppio al 19esimo su crosta destra di Giovinco. Una palla che ballonzonando attraversa tutta l'area del Palermo, e vi lascio immaginare come era piazzata la difesa rosanero per la gioia di Zamparini, io credo. E sul lato, sull'altro lato arriva Modesto che segna in maniera piuttosto semplice. All'undicesimo del secondo tempo segna Pastore in tappin dopo un palo pieno colpito da Cassani. Al 44esimo Candreva chiude il discorso, partita e salvezza per il Parma. 3-3 incredibile tra Sampdoria e Brescia, 0-0 pieno di paura nel primo tempo, poi al quinto della ripresa Eder su assist, su tocco intelligente di Caracciolo, sponda di Caracciolo, toglie il tappo praticamente a questa partita e da lì è un continuo rincorrersi con il Brescia che prova a scappare, la Sampdoria che riesce sempre a rimontare al decimo per la prima volta su un gran cross da destra di Biabiani. Il colpo di testa a botta sicura di Pozzi al 13esimo con la Sampdoria ferma, e questo è un errore gravissimo dei doriani più che dell'arbitro Rocchi, eventualmente contatto in area su Pozzi, tutta la Sampdoria si ferma a protestare e becca il contropiede del Brescia direttamente su lancio con le mani di Arcari, portiere dei Lombardi, e Caracciolo che riesce a resistere alle cariche degli unici due che non stavano protestando, i centrali della Sampdoria, comunque a segnare il gol del 2-1. Al 18esimo, quindi 5 minuti dopo, Tissone trova un fin troppo facile varco a centrocampo tra maglie bresciane troppo larghe per l'appunto, destro in corsa da 25 metri, gol del 2-2. Al 39esimo Caracciolo di nuovo di testa su cross di Diamanti e al 46esimo primo di recupero Mannini che dà questo 3-3 che per la Sampdoria è importantissimo. Si gioca stasera Bari-Roma con, diciamo, la Roma che ha la possibilità di portarsi a un sospiro dalla Lazio che domani sera chiude la giornata ricevendo la Juventus, e si gioca appunto domani Lazio-Juventus posticipo del lunedì. In classifica Milan, no, direi che c'è la viabilità, quindi la classifica ve la do dopo il traffico, facciamo così. Zanini, produzione Porte Hotel Tagliafuoco. Sogni d'oro, Zanini Porte. Vi presenta... Strade in diretta. 17:16 minuti sul tratto Emiliano dell'Autosole, ci sono code per un incidente tra Parma e l'allacciamento con la 15 della Cisa in direzione di Milano. A chi è in viaggio sulla 3 Salerno-Reggio Calabria raccomandiamo prudenza per la nebbia che riduce la visibilità tra Lauria e Lago Negro, tra Pizzo Calabro e Vibo Valentia e poi anche tra Palmi e Scilla. Infine a Roma città prosegue il deflusso dei pellegrini, si procede gradualmente alla riapertura delle strade nelle aree limitrofe alla zona di San Pietro. Non ci sono altri aggiornamenti, torniamo tra 30 minuti. A tempo di sport. Vorrei aprire un dibattito via SMS con Maria Rosa che scrive sicuramente le partite, prima insomma così glorificava un campionato spagnolo in cui c'è serietà e rispetto, mi sono permesso di notare che in Spagna in questi giorni di serenità, di rispetto ce n'è pochino. Nel confronto tra Barcellona e Real, Maria Rosa replica, ma dove c'è Mourinho non si smentisce mai, io ho assistito a Valencia, alla partita Valencia-Villarreal di campionato e posso confermare quello che ho scritto, scrive Maria Rosa. Se mi chiama magari possiamo avere un confronto un po' meno difficile, 800-24-00-24, vi ricordo il numero verde. Classifica come promesso, Milan 77 punti, a un punto dalla certezza matematica del titolo. Inter 69, Napoli 68 e le prime tre posizioni mi sembrano congelate. Poi importante e interessante sarà vedere che succede per il quarto posto, che pure è importantissimo, con l'Udinese che si è arenata definitivamente, 4 sconfitte nelle ultime 5 partite, che rimane comunque a un punto dalla Lazio che giocherà domani, Lazio 60, Udinese 59. A quel gradino, cioè quello dell'Udinese, potrebbe arrivare stasera la Roma che giocherà a Bari, ne ha 56 attualmente, e c'è ancora la Juventus che le sue speranze se le vuole giocare fino in fondo, appunto domani all'Olimpico, 53 punti per la Juve. Palermo 50, Fiorentina 49, Genoa 45, Cagliari 44, Chievo 42 punti, Parma 41, Catania e Bologna 40 punti, quindi inizia la zona salvezza, secondo me, dal Cesena che ne ha 37, Sampdoria 36, uno in più del Lecce ma con confronti diretti favorevoli, Lecce 35, Brescia 31, Bari 21, già retrocesso. Questa è la classifica, farei un salto invece a San Siro da Dario Ricci, nostro inviato. Ciao Dario. Sì, buonasera Carlo. Direi che successo meritato quello del Milan, decisivo come ricordavi il gol di Flamini, le proteste anche bolognesi per l'espulsione di Della Rocca, ma in generale direi per un'interpretazione molto fisica della gara che De Marco ha permesso ai rossoneri, e qua insomma i muscoli di Boateng e Ambrosini si sono fatti sentire e il Bologna ne ha fatto un po' le spese, un Bologna che comunque nel primo tempo non ha quasi mai impensierito la retroguardia rossonera, nella ripresa l'ha fatto proprio su due calci d'angolo di Della Rocca, al 30° del secondo tempo, un colpo di testa di Jimenez che è andato fuori di pochissimo, azione fotocopia poi al 36°, di testa stavolta Britos ha sfiorato il pareggio, prima e dopo tante occasioni per il 2-0 rossonero. Entrerei già in fase di commento con il nostro ospite Carlo Franco Ordine, l'inviato del giornale. Allora Franco, scudetto rossonero ormai a un passo e direi che non poteva certo essere questo Bologna a metterlo a rischio. Che Milan hai? Insomma, che fino a quando ha avuto il possesso della palla, insomma, ha avuto energie, mi pare che abbia fatto quello che ci si aspettava da lui. Secondo me è stato nel finale obiettivamente un po' di ritardo da parte dell'allenatore nel programmare i cambi e poi una serie di errori davanti alla porta che potevano davvero, insomma, il Milan ha sbagliato a porta spalancata con Flamini, con Robinho e con Beretta, obiettivamente, e con Robinho ancora poi nel finale. Obiettivamente è troppo, una squadra che deve chiudere la partita, insomma, aveva bisogno di chiuderla e di mettere dentro la palletta del 2-0. Il Bologna, devo dire, io non condivido la descrizione che tu hai fatto di una partita fisica. Il Milan non ha fatto una partita fisica, secondo me invece è il Bologna che ha tirato fuori gli artigli, credo non potendo fare diversamente, non potendo ricorrere ad altre armi. Mi pare in questa partita il primo tempo non ha mai tirato in porta, praticamente gli abbiati non ci sono sul taccuino parate, quindi insomma da questo punto di vista mi sembra, insomma, Bologna non è stata a guardare, insomma, però non credo che possa accusare di essere stato picchiato, insomma. Poi comunque il gioco del Bologna è fin troppo spesso passato per i piedi volenterosi ma non troppo educati di Mutarelli e insomma la qualità ne ha risentito. Franco, facevi riferimento anche al peso di Allegri sia in questa vittoria ma più in generale in questo titolo a cui manca ormai solamente la consacrazione matematica. Dal tuo punto di vista quanto ha influito questo tecnico su questa stagione in campionato dei rossoneri? Tanto, è stato un vero assemblatore perché è partito con una squadra con diciamo il vecchio schema dell'anno scorso, lo ha corretto in corsa, lo ha modificato, ha cambiato oltre che la testa, secondo me anche l'anima a questa squadra che non era abituata da anni, da secoli a stare in testa al campionato per tantissime giornate, per cui da questo punto di vista mi sembra quello striscione che è comparso sulla curva mi sembra molto meritato. Poi ha fatto delle scelte coraggiose, importanti, ha messo da parte Ronaldinho, ha mandato in panchina gente come Seedorf, Pirlo, Pato, ha rilanciato vecchi combattenti del pallone come Zambrotta e Gattuso, ha recuperato alla forma migliore Abbiati, insomma io penso che abbia grandi meriti in questa cavalcata. E direi un'ultima battuta, ha recuperato anche un Cassano anche fisicamente presentabile, quando c'è la forma fisica Cassano riesce a regalare qualche giocata preziosa, così come ha fatto anche oggi, no? Sì, oggi devo dire non è che mi abbia impressionato dal punto di vista fisico, mi è sembrato un po' troppo appesantito oggi, forse è partito anche un po' il caldo probabilmente, però insomma devo dire che le giocate che ha fatto Cassano quando è entrato, soprattutto nell'ultimo mezz'ora, negli ultimi 15 minuti, sono state decisive. Grazie a Franco Ordine del giornale. Carlo, ecco, ci sono. Perfetto. No, benissimo così. Dario, volevo solo chiederti insomma se hai intuito i motivi delle grandi proteste della panchina bolognese nei confronti del. Ho visto qualcuno si girava verso la tribuna, aveva da dire a fine partita. L'espulsione Della Rocca l'abbiamo raccontata. E si può discutere su quello, ma hai altri, insomma, ci sono altri motivi per questa rabbia? Guarda, devo dire, ecco, quelli che un po' ricordavamo con Franco Ordine all'inizio, pur divergendo nella lettura della partita, è chiaro che quando comunque ti trovi addosso, a San Siro, un centrocampo così prestante, intenso, insomma, Flamini, Boateng e Ambrosini, che spesso hanno rilanciato proprio con i loro anticipi, con i loro tackle, questi contropiedi che poi però gli attaccanti non hanno finalizzato, sicuramente i bolognesi ne hanno risentito, anche perché anche sotto il profilo fisico Mutarelli e Mutingai non erano diga sufficiente. E poi è sembrato un po' anche che Malesani abbia voluto un po' calcare la mano su questo aspetto, sai, come l'allenatore del basket che prende il tecnico per scuotere la squadra, no? Il Bologna al quinto KO consecutivo. Non resta che aspettarlo ai microfoni, insomma, sentiremo poi Malesani insieme. Intanto io ringrazio Dario Ricci, nostro inviato a San Siro, che ritroveremo più tardi. Luca da Torino e Luigi, sempre da Torino, già in linea, 800 24 00 24, il numero verde. Prima di Luca e Luigi però vorrei sentire insieme a voi Pasquale Iachini, che oggi ha pareggiato a Genova una partita che per il Brescia era una specie di ultima spiaggia e che per il Brescia poteva a un certo punto diventare davvero quella del rilancio verso la salvezza. Tre volte in vantaggio, il Brescia è stato tre volte riacciuffato. Sentiamo cosa dice Iachini. Vedere quanto il Brescia voglia rimanere in questa Serie A. E poi comunque lei continuava a dirmi, Ilaria, prima mentre vi aspettavamo, noi ci siamo, ci siamo, ci siamo. Ci siamo, ci crediamo fortemente e dobbiamo crederci fortemente. Oggi abbiamo fatto veramente una grande partita, abbiamo ribattuto colpo su colpo, non siamo stati remissivi, nello stesso tempo siamo passati in vantaggio più volte, e purtroppo l'unico rammarico che ho dovuto magari tra virgolette sprecare due cambi per infortunio, e in questo c'è grande rammarico perché soprattutto nell'ultimo sull'infortunio di Zoboli è stato un cambio che poi non mi ha permesso di poter andare a variare un attimino anche il tema tattico per congelare il risultato, perché a quel punto è chiaro ho dovuto fare il cambio difensore per difensore, mentre sai, con un cambio in più una volta ritornati in vantaggio poteva essere importante ai fini del magari di andare a rinforzare anche la linea difensiva, e questo c'è grande rammarico perché ovviamente la squadra ha fatto una grande partita e comunque ha dimostrato di credere in quello che sta facendo, e ancora non è finita perché abbiamo delle partite importanti, degli scontri diretti, e anche le altre squadre ovviamente hanno partite importanti, quindi ce la giocheremo fino in fondo. Dichiarazioni di Beppe Iachini, che ci crede, però Brescia a meno 5 dalla Sampdoria a tre giornate dalla fine, mi sembra un po' tardi. Luca da Torino, buonasera. Sì, buonasera, complimenti al Torgenta. Grazie. Professionalità e l'educazione. Grazie. Io sono ancora più convinto, comunque vada, da interista, che il campionato l'Inter l'ha perso, diciamo così, per motivi anche di testa, di pancia, di infortuni, di tutte queste cose. Anche però, un po' fisiologici, no Luca? Perché chiaro, insomma, le dinastie, esatto, le dinastie in qualche modo devono finire, in qualche maniera devono finire. Di Milano sono 7 anni che non vince, sembra che, non so, sia una cosa quasi eccezionale, comunque contenti loro. Poi sento dire di rifondazione di una squadra, allora che parlano di Zanetti, allora Zanetti non ha 37 anni, nessuno ci crede a Milano e forse anche in Europa che abbia 37 anni. Però ce li ha. Parlano di rifondazione quando vedo la carta d'identità dei giocatori del Milan. Ho detto auguri, perché voglio dire, mi ricordo bene la squadra Calderdi, avevano tutti 34 anni minimo, metà squadra. Sì, ma nessuno dice che il Milan sia una squadra fresca, però se superiamo la dialettica stracittadina, no, che ci sta ampiamente, l'Inter è una squadra da rifondare o da ringiovanire o comunque da riprogrammare, non lo so, poi usiamo il termine che vogliamo, è una squadra anziana. Zanetti 37 anni ce li ha sul serio, e grande professionista, grande atleta, quello che vogliamo, Luca, però l'Inter è una squadra che va rifatta. L'Inter è una squadra che va rifatta, probabilmente con grande coraggio, il discorso che abbiamo fatto mille volte, si poteva fare questo il giorno dopo Madrid, prendendo al volo i presupposti da Mourinho che va via, a Milito che manifesta le sue intenzioni di cambiare aria città, di andare a prendere più soldi altrove, che magari può essere ancora un rimpianto per il presidente Moratti, all'arrivo magari anticipato dei giocatori che poi, a cominciare da Pazzina, hanno dato una grande mano a Leonardo. Che l'Inter vada svecchiata anagraficamente è indiscutibile, al di là del parallelo con il Milan, Per l'amor di dire, però voglio dire, io comunque sono fiducioso, perché considerando che Leonardo su 20 partite ha 20-15, sì, insomma, voglio dire, i presupposti per, sì, per far bene a una trama, per sì, prenderci, sì, certo, la supremazia, speriamo, sì, incrociando, sì. Ma guardi, Leonardo a mio parere ha sbagliato in maniera clamorosa soltanto una partita, che è stata quella con l'Inter. Con Leonardo hanno sbagliato una partita clamorosa, è stata quella con lo Schalke 04, perché al di là del tutto, di tutto, insomma, sul derby si può discutere a lungo, quello lì il Milan ha vinto il suo scudetto e non c'è dubbio su questo. È stata una settimana molto particolare di cui si è discusso anche, ma con Mourinho i nazionali mica sarebbero andati via così facilmente. Questi sono mille altri temi. Però l'Inter ha perso, il Milan ha vinto lo scudetto in quel derby, secondo me. L'Inter ha rovinato, macchiato in maniera vistosa la sua stagione in quella partita, un doppio confronto, una partita d'andata con lo Schalke 04, perché avesse centrato una semifinale di Champions League che era ampiamente alla portata. Poi col Manchester United può andare in qualunque maniera, ma non è quello il punto. In semifinale di Champions League, magari secondo in campionato, con il titolo mondiale o mondialito, come diranno i milanisti e come si sono sentiti dire da Mancini altre volte, vinto in inverno, e magari con una Coppa Italia, beh, non si poteva parlare di stagione così negativa, come di fatto non lo è per l'Inter. Vediamo come finisce, vediamo come va anche sto discorso della Coppa Italia, però tutto sommato vincere sempre non si può. L'Inter è a fine ciclo, andrà rifondato, i presupposti ci sono. Luigi, buonasera. Buongiorno, dottor Genta. Lei ha aperto la trasmissione con i famosi perché di Mourinho. Glieli faccio risentire, guardi, glieli faccio risentire. Perché? Perché? Perché Ovrebo? Perché Busaka? Perché De Blecker? Perché Stark? Perché? Contento Luigi, ma solo questo era solo un estratto, poi ne sentiamo anche degli altri. È un estratto dettato dalla cronaca, perché De Blecker gli torna addosso martedì, ecco. Allora lancio io una provocazione per Mourinho. Sì. Perché ha lasciato in panchina quattro fuoriclasse del calibro di Kaká, Adebayor, Benzema e Higuain, e ha giocato con una punta sola, cioè Cristiano Ronaldo, facendo giocare il Real come una provinciale. Perché adesso chiedo io, perché ha sbagliato. Poi perché non si è ricordato che lo scorso anno, in un certo Inter Barcellona, se non ricordo male, un certo Milito ha segnato di mezzo metro in fuorigioco? E perché non si è ricordato che il fallo di Pepe, per quei falli lì, vengono tutti sanzionati con l'espulsione in Coppa dei Campioni? Come mai non si è ricordato di questi perché? Sì, guardi, su questi bisognerebbe girarli a lui. Perché ha sbagliato io confermo, ma lo diciamo ovviamente col senno di poi, così come continuiamo a sorprenderci di fronte ad una strategia che conosciamo bene, no? Questa polvere alzata da Mourinho, in questo caso in maniera particolarmente inelegante, perché il riferimento all'UNICEF io credo sia un'offesa alla sua stessa intelligenza, trattandosi di un uomo molto intelligente. Quello è stato veramente un errore inelegante e incomprensibile per uno come lui, ripeto. Perché ha sbagliato, e perché alzando questa polvere magari nessuno gli ha chiesto: ma perché quei fuoriclasse in panchina, perché Kakà, perché, come ha fatto lei, ha alzato il dito, tutti a guardare il dito, e la luna l'ha vista chi ha voluto vederla poi alla fine. Detto questo, una settimana prima secondo me il Real Madrid aveva giocato e Mourinho aveva disegnato la partita perfetta se si vuole vincere contro il Barcellona, perché è inutile fare i fenomeni se ti metti a giocare a calcio. Quindi se vuoi sfidare il Barcellona alla pari sul piano del gioco, con i fuoriclasse alla ricerca del gol a viso aperto, le prendi matematico, e questo Mourinho lo sa meglio di tutti. Torniamo a parlarne dopo questa pausa. 800 24 00 24 è il numero verde. Dal 12 al 16 maggio, Salone del Libro di Torino. Anche quest'anno Radio 24 sarà presente con trasmissioni in diretta, appuntamenti speciali e una programmazione dedicata. Dal 12 al 16 maggio vi aspettiamo al Salone del Libro di Torino, Padiglione 2, Spazio Radio 24. Già qui? Ma come hai fatto? Per me ha corso Credit Reform. Non devi più correre dietro il tuo denaro. Ci pensa Credit Reform. È il più veloce, sempre. Ah, ma quanto ha vinto? Ha vinto la fiducia di 170.000 clienti perché il gruppo Credit Reform è la prima società di recupero crediti del mondo con 533 milioni di euro di fatturato. Con Credit Reform, il vostro credito è sempre al primo posto. 800-425-325 o creditreform.it. Tempo in diretta. Previsioni a cura del Centro Epson Meteo. Una buona serata agli ascoltatori di Radio 24. Nella prima parte della giornata di domani il tempo rimarrà nel complesso discreto, ma con nubi in aumento in Sardegna, dove nel pomeriggio tornerà anche qualche pioggia. Nella seconda parte del giorno poi inizieranno ad aumentare le nuvole anche sulle regioni tirreniche e su quelle di nord-ovest, con qualche debole pioggia in serata. Venti di scirocco in rinforzo sui mari di Ponente e per finire vi segnalo temperature in rialzo al centro-sud grazie al temporaneo miglioramento del tempo. E con questo per il meteo è tutto, maggiori dettagli su meteo.it. Mi dicevi che l'imprenditore di quello stand sembra interessato a investire nei prodotti bio. E non è solo. Io cerco soprattutto dei clienti affidabili. Anch'io. E ora so di chi fidarmi. Merito di Euler Hermes SIA, che è del loro servizio di consulenza sull'affidabilità del cliente. Nessun mancato pagamento, nessuna brutta sorpresa. Euler Hermes SIAC, gruppo Allianz, è il leader in Italia per la valutazione del rischio, assicurazione e recupero credito. Per info 888 7700 o eulerhermes.it. Appassionanti come un romanzo, avvincenti come un film, imprevedibili come la vita. I videogiochi sono la nuova passione di Radio 24. Video game. Ogni sabato alle 15.30 Stefano Gallarini conduce Videogiochi. Videogiochi. La rubrica di 2024 che vi racconta le nuove uscite videoludiche come se fossero un film e che vi premia con un buono da 300 euro da spendere da expert. Videogame. Videogiochi. Ogni sabato alle 15.30 su Radio 24. A tempo di sport. Torniamo insieme, vi ricordo il contatto per intervenire sui temi di oggi della settimana che trovo molto interessanti, dal quasi scudetto del Milan ai porché di Mourinho. 800 24 00 24 il numero verde, a Pazzini che da meraviglioso guastafeste qual è? Così ha un po' posticipato, ma certamente rovinato, no? La festa del Milan. Oggi era giorno, credo, ideale per festeggiare, un bel sole, primo maggio, stadio esauritissimo, bancarelle pronte, pullman anche, e invece Pazzini ha deciso che era il caso di rinviare tutto. Dunque 800 24 00 24 è il numero verde. Parma salvo praticamente, anche se non matematicamente. Colomba sta parlando con Sky. Complimenti ancora, arrivederci, ci rivediamo la settimana prossima. Faccio sentire arrivederci Colombo, ma adesso c'è Galliani, Galliani ce lo prendiamo tutto quanto, e insomma la faccia è quella del titolo conquistato al di là della matematica. Sentiamo cosa dice. Festeggiando questa vittoria stava festeggiando. No, questa vittoria sì. Il difficile arriva adesso. Ecco, il difficile arriva adesso, ovviamente la cravatta è sempre giallina, non manca. Le facciamo vedere questo tipo di dedica da parte della regia, guardi che cosa. Grazie. Le hanno preparato. La grande delle locandine della grande illusione, grande illusione, mi sembra una più che grande illusione, mi sembra la grande attesa, ma nemmeno, insomma, mi pare che lo scudetto sia già vinto, al di là di una sottile disquisizione matematica, ecco. Cosa dice Galliani? Illusione, non ho capito se è per il generale, per il maresciallo Galliani. Esatto. O per Pazzini. È di faccia, nel senso che prima di questa partita poteva essere la grande illusione rovinata del Milan di poter fare la festa oggi a San Siro. Viceversa, adesso, quando mancano soltanto tre partite e basta un punto al Milan, io direi che si potrebbe anche rigirare dall'altra parte, no, Galliani? Vediamo, no, io non amo fare pronostici, adesso non voglio fare così. Chiaro che abbiamo molte possibilità di vincere questo scudetto, però non così, siccome il futuro non lo conosco, diciamo che, se, che di sicuri siamo secondi, perché il Napoli a 9 punti non ci può raggiungere, e con l'Inter vediamo quanti punti fa l'Inter, magari non lo so, se l'Inter ne fa 9 ce ne vuole uno, se l'Inter ne fa meno di 9 non ce ne vuole nessuno, e vedremo la vita cosa ci riserverà nei prossimi 20 giorni. Comunque 8 punti e il vantaggio del confronto diretto a 3 giornate alla fine è straordinario. Probabilmente ha ragione Mario Sconcerti quando dice che siamo la squadra, lui dice meno imperfetta, forse ha ragione lui, perché tutto è perfettibile e dobbiamo ma ti ricordi migliorare. Tutto, segni tutto. Meravigliosa la scaramanzia di Galliani, che non so nemmeno fino a che punto possa arrivare. Io saluto e ringrazio invece Enrico Curro, inviato di Repubblica, che oggi scrive un pezzo dal titolo La delusione di San Siro esaurito per una vigilia. Ciao Enrico. Ciao Carlo, no, per la verità il titolo, come sai, non lo faccio io. Quindi... Certo. Però resta il senso, no? Resta il senso. Esaurito per una vigilia, oggi doveva essere il giorno della festa, poi arriva il magnifico guastafeste, dicevo prima, di Pazzini, e insomma stringe la cravatta di Galliani, ecco, mettiamola così. È chiaro che oggi poteva essere il giorno di una festa che è comunque scontata al di là di tutte le scaramanzie del mondo. Io invece volevo chiederti una cosa: secondo te, prima si parlava di Milan squadra meno imperfetta, no, tra Galliani e Sconcerti, il Milan è la squadra sorpresa del campionato? Non so se il Milan sia la squadra sorpresa del campionato, secondo me è Allegri l'allenatore sorpresa del campionato, perché è stato veramente bravo a gestire una situazione che per un allenatore che arrivava alla prima panchina importante non era oggettivamente semplice, perché ci sono stati tanti ostacoli lungo questa stagione. C'è stato inizialmente il consiglio, quello che io definisco il presidente dei consigli, cioè Berlusconi, che voleva che giocassero i fantastici quattro famosi, cioè che in qualche modo l'allenatore trovasse la soluzione tattica per far coesistere quattro attaccanti, il che evidentemente non è possibile. Allegri è stato bravissimo a far capire subito a Berlusconi, coi fatti, coi risultati, e alla squadra, con un atteggiamento spesso anche intransigente, lasciando fuori in panchina a turno giocatori molto importanti, che la tattica del Milan sarebbe stata una tattica prima di tutto pragmatica, molto realista, una tattica quindi con un trequartista, e poi col tempo è diventato anche un trequartista molto particolare come Boateng, certo, cioè non un rifinitore in senso stretto, e due punte, più tre centrocampisti, preferibilmente addirittura tre mediani. Quindi questo significa che nel suo Milan non c'era posto per lo squilibrio tattico, per il bilanciamento che era stato fatale l'anno scorso a Leonardo. In questo credo che lui sia stato molto bravo. Credo sia stato anche bravo nel gestire la situazione di emergenza che c'è stata, è stata anche abbastanza lunga con i tanti infortuni. Non era semplice quel periodo, ha saputo utilizzare anche dei giovani, pescare dalla primavera, pescare un giocatore come Merkel, che ha giocato mi sembra 6 partite o comunque ha 6 presenze, quindi non tantissime, però in una fase del campionato è stato utile anche lui, così come Strasser, che ha segnato addirittura il gol di Cagliari, così come Oddo e Jankulowski, che sembravano finiti chissà dove, invece un po' di partite, poche, le hanno giocate, e quelle poche che hanno giocato le hanno giocate bene. Siamo già arrivati a 31 giocatori che il Milan ha utilizzato quest'anno. Credo che, non lo so, non sono un esperto di statistiche, ma credo che raramente una squadra che vince lo scudetto usi così tanti giocatori, un numero di giocatori così alto, non e questo è merito di Allegri. No, ma ti dicevo prima, paradossalmente Milan squadra sorpresa del campionato, perché la sensazione è che fino a un certo punto non ci credessero nemmeno loro, no, nella situazione che si è venuta a creare. Poi evidentemente hanno, strada facendo, acquisito certezze, e in questo senso ritengo che una mossa chiave sia arrivata dall'ingaggio di Van Bommel, che ha sistemato diversi equivoci e diversi dubbi legati anche agli infortuni del centrocampo. In un colpo solo Van Bommel ha sistemato comunque, anche per le sue caratteristiche, il Milan. Altra novità portata da Allegri, questo è stato per la prima volta dopo tante stagioni un Milan che, ovviamente per causa di forza maggiore, cioè di infortuni, però anche credo per scelta strategica, sarebbe stato così, un Milan che ha fatto a meno di Pirlo, che ha in qualche modo rinunciato al playmaker, che ha rinunciato a un giocatore fondamentale quanto condizionante come Andrea Pirlo. Sì, guarda, questa forse è l'unica mossa che sicuramente ha funzionato, sicuramente è stata anche un po' fortuita qualche volta, ma non mi lascia completamente convinto, nel senso che in realtà, certo, Allegri ha fatto una scelta molto precisa, che è quella di un centrocampo a tre nel quale c'è un mediano puro a destra, Gattuso oppure Flamini come oggi, c'è un giocatore interditore puro davanti alla difesa, Van Bommel o Ambrosini, e il cosiddetto creativo, cioè il giocatore di fantasia, il regista, viene semplicemente spostato, decentrato, quindi Pirlo oppure Seedorf nelle ultime esibizioni del Milan prima che rientrasse. Detto questo, però, mi sembra che la rinuncia, al di là del ruolo in cui viene impiegato, e su questo si può essere anche d'accordo con Allegri, può darsi che il gioco del Milan, infatti lo hanno dimostrato, scorra meglio, fluisca meglio se il giocatore creativo non è al centro del centrocampo, ma leggermente spostato, e quindi in questa posizione può essere marcato con più difficoltà dagli avversari, il gioco è meno prevedibile e tutto quanto. Però io credo che invece si ponga un altro problema, che è legato proprio alla figura di Pirlo in quanto tale. Io credo che Pirlo tuttora, se sta bene, e oggi per esempio stava benino, sia il migliore calciatore italiano, lo rimanga, e quindi credo che il Milan debba stare molto attento a rinunciare a priori a un giocatore come Pirlo. L'indizio oggettivamente sembra quello, perché se in una partita come questa, in cui Boateng a un certo punto si fa male o comunque è acciaccato, Pirlo entra soltanto a 10 minuti dalla fine, credo che insomma un po' sia una soluzione più o meno definitiva. Il contratto di Pirlo in scadenza, visto che la Juventus lo sta cercando con insistenza, io ci penserei due volte, perché Pirlo è tuttora il miglior calciatore italiano. Grazie Enrico, grazie davvero, buon lavoro. Grazie ad Enrico Currò. Pirlo andrà alla Juventus, io credo che un altro senatore in quest'estate saluterà il Milan. Dopo il traffico vi dico chi è, magari lo sapete benissimo anche da soli. 800 24 00 24, numero verde. Giuseppe da Bergamo e Maria Rosa che mi ha chiamato da Bologna, meno male, sono già in linea, ci sentiamo dopo. Giulietta, l'auto più sicura della categoria con nuovo motore diesel JTDM2 da 140 cavalli, vi presenta Strade in diretta. Traffico intenso attorno a Milano, auto in coda sulla 4 in uscita a Cormano per il traffico diretto a Brescia. Traffico rallentato sulla 14 Adriatica nel tratto tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio, in questo caso per un cantiere di lavoro in entrambe le direzioni. Infine a Roma città è in corso il tradizionale concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni. La piazza e le zone limitrofe sono sempre chiuse al traffico, chiuse per motivi di sicurezza anche le stazioni della metropolitana San Giovanni e Manzoni della metropolitana A. È tutto per il momento, ci risentiamo tra mezz'ora. Promo 24. Ognuno ha la propria idea di libertà, ma in ogni caso con Subaru Outback è sempre al sicuro. La versatilità di un grande crossover unita all'esclusiva sicurezza Subaru. Trazione integrale permanente con tre differenziali meccanici e motori boxer, diesel, benzina e bifuel, anche con l'esclusivo cambio a variazione continua Linear Tronic. La massima libertà di movimento su ogni terreno e in ogni condizione, anche le più difficili. E per chi vuole di più, oggi c'è Outback Limited, con protezioni crossover e sistema di attivazione automatica delle luci di emergenza. Ha un prezzo straordinario per Outback, da 35.480 euro. Da scoprire negli showroom Subaru che aderiscono all'iniziativa. A tempo di sport. 800 24 00 24, numero verde per parlare con noi. Vi anticipo che cosa dirà Malesani, cosa tra poco sentiremo da Malesani attraverso i microfoni di Sky, perché ha già parlato. dicendo: anche questa volta siamo stati penalizzati da un arbitro che è incappato in una giornata storta nel momento migliore del Bologna, quando il Milan boccheggiava. De Marco ci ha penalizzato espellendo incomprensibilmente Della Rocca. Quindi ha detto una cosa assurda, a fine partito ha detto a De Marco che queste cose non si possono fare nel calcio, abbiamo subito falli peggiori di quello che ha commesso Della Rocca e non sono stati nemmeno sanzionati, per tutta la partita ha usato due pesi, due misure, così Malesani. Giuseppe da Bergamo, buonasera. Buonasera. Buonasera. Mi dispiace, ma sono totalmente contrario. Malesani e la ragazza di Bologna di prima, a mio parere, hanno visto una partita diversa. Infatti io mi incavolavo vedendo la TV, perché non estraeva cartellini gialli col signore lì, sì. Allora facciamo perché, così, facciamo così. Me... Giuseppe, lei stia lì, perché la ragazza di Bologna, che è Maria Rosa e che è in linea, insomma, la facciamo parlare subito. Maria Rosa. Pronto, buonasera, grazie dell'opportunità. Io ammetto che sono un amante dello sport, sono una tifosa, quindi... Però nel mio piccolo pensavo sicuramente che non c'era l'espulso della Rocca, ecco. Per quello, solo per quell'episodio? Sì, no, ho guardato a scaramomenti la partita, però sì. In ogni caso, oltre che il Bologna ci ha messo anche del suo in queste giornate, sicuramente io comunque do ragione a Malesani. Lei dà ragione a Malesani? Bah, insomma, io guardi, non avendo visto tutta la partita posso avere una visione parziale di quanto è successo. Certamente il Milan è una squadra molto fisica, non mi sembra ci siano episodi particolarmente clamorosi. Purtroppo noi siamo abituati a polverizzare la partita in 100.000 episodi e ci focalizziamo su quelli. Insomma, non saprei che dire, non ho visto delle cose pazzesche da parte di De Marco, ma così a spizziche bocconi per quanto posso vedere io, Maria Rosa. Quanto alla serenità del calcio spagnolo di cui lei scriveva, certamente è un ambiente diverso, sportivamente parlando, è un ambiente molto diverso, non solo nel calcio, quello spagnolo, certo in questi giorni c'è di serenità non ce n'è tantissima. Io prima, però in ogni caso... sicuramente anche conoscendo Mourinho non si smentisce in queste occasioni, come anche alla Coppa del Re ha fatto una partita molto fisica e ha fatto benissimo, ha fatto così al limite della legalità in ogni caso, però l'ha vinta, quindi io ho avuto l'occasione di andare a vedere Valencia e Real e quindi io sono rimasta molto molto entusiasta di aver visto il campionato, che poi mica per niente sono la terza e la quarta in classifica campionato spagnolo, certo. Quindi io ho avuto l'opportunità di poter andare e sono stata molto molto contenta di tutto l'insieme, anche dei tifosi, no, ma certo, di la serenità, hai capito? È questo che volevo dire. È un ambiente profondamente differente che non possiamo che invidiare, questioni culturali e non solo, anche di impianti a mio parere. Poi non dimentichiamo il fatto che insomma in Spagna non c'è l'usanza di andare a seguire la squadra in trasferta, si va tutti allo stadio quando la squadra gioca in casa, in trasferta la si segue in altra maniera, e questo ha comunque un peso, è una scelta di vita, mi voglio dire, una scelta culturale. In Spagna si fa così. A beneficio di Maria Rosa, di Giuseppe da Bergamo, che è sempre in linea e di cui tra poco attendo la replica, sentiamo Malesani come annunciato con Sky. Di sostegno, hai capito? No, ma... esatto. Non Mario è gratis, oggi l'ho letto. Voglio dire, è tutto meritato. No, ma... che ho fatto è vero, ma Mario l'ho letto. No, ma hai scritto bene, il Bologna non si ritrova più, avevi detto, ed avevi ragione. No, ti stavo dicendo che avevi ragione. Però devi capire cosa... come ha fatto, ha detto bene Ilaria, cosa noi abbiamo, che periodo abbiamo attraversato, abbiamo superato tutto, ci mancava solo una crisi di risultati. Oggi con la prestazione di oggi io credo che siamo la fine anche di questa crisi. Ecco, oggi la squadra soprattutto nel secondo tempo l'ho vista giocare come ha fatto per fino a 5 domeniche fa, e questo mi inorgoglisce, e io ho degli eroi veramente. Una cosa così, anche se qualcosina ho vinto nella mia vita, ma il giorno in cui si festeggerà la salvezza, e speriamo che arrivi presto, per me è il più grande risultato della mia carriera questo. Però ha girato la domanda di Ilaria: perché non è ancora sicuro al 100% che Malesani alleni il Bologna nella prossima stagione? Aggiungo anche quello che ha detto il presidente nel prepartita: se ha delle offerte chiedetelo a Malesani. Quindi due domande in una: perché non siamo ancora sicuri e quali sono le offerte? No, guarda, adesso siamo a un punto importante. Si sono susseguiti 4-5 presidenti ed ogni volta tu sai benissimo che è determinante entrare in sintonia, essere sulla stessa lunghezza d'onda con questa guarda, nuova, sinceramente, diciamo, a me in questo momento del futuro di Malesani mi importa pochino delle sue insomma esternazioni relative a De Marco. Abbiamo sentito, certamente non è colpa di De Marco la striscia dei risultati perdenti del Bologna nell'ultimo periodo. Bologna che oggi ci ha dato sul campo di San Siro, ha perso 1-0, cose che ci stanno. Non ho visto nulla di peccaminoso in questa direzione di gara di De Marco. Giuseppe, sì. Dove siamo rimasti? Ha sentito Maria Rosa, non era d'accordo? Ho sentito tutto. Allora, sono d'accordo su una cosa. Sì. Il fallo su De Marco, l'espulsione se lo poteva anche risparmiare, non ce n'era bisogno. Sì. Su questo, su Malesani, con Malesani e con la signora, sono d'accordo, se sì. Lo poteva risparmiare l'arbitro. Sì. Tutto il resto no, però dai. Sì. Perché il numero 5 Mutarelli andava ammonito secondo me molto prima. Mm. E sull'occasione del 2-0 secondo tempo che ha steso ha lasciato andare per il contropiede quel tipo lì, andava ammonito, quello lì l'ha tirato giù. Ma guardi, volontariamente il Boateng. Sì, ho capito Giuseppe, però non mi sembra il caso di fare una questione arbitrale sulla partita di oggi. È una partita che il Milan, con aria di festa che c'era allo stadio, voleva vincere, l'ha sbloccata dopo 8 minuti e insomma a quel punto la partita doveva farla al Bologna, che evidentemente non ne aveva oggi le energie e in generale le qualità tecniche. Cioè, non mi sembra il caso di fare una questione arbitrale su questa partita, ecco. Sono perfettamente d'accordo con lei. Il problema è la seconda cosa che volevo, ecco, io volevo rispondere solo a questa cosa qui, che avevo visto una partita diversa. La seconda cosa che volevo dire è che date troppa importanza a quello stupido uomo, mi dispiace dirlo, di Mourinho. Gli date troppa importanza a questo signore qua. Ma perché? È un grandissimo, è uno dei migliori, sicuramente. Sì, sì. Merita tutto quello che volete, ma quando fa quello lì deve andare a fare teatro, non deve parlare. Deve, sì, deve fare allenatore con la bocca chiusa, basta. Ma perché? Ma perché, Giuseppe? Ah, sì. Ma perché, ma perché si demonizza la parola? Uno che, in un mondo in cui siamo abituati a gente che, insomma, che dice le stesse cose molto banali, perché c'è questa demonizzazione della parola? Perché come esce uno che qualcosa dice, subito diventa un problema? Perché? Il signore lì crea violenza, secondo me, crea nervosismo, crea astio e odio, e ce n'è già abbastanza lo stato di astio e di odio, dai, non è possibile. Io allenatore vincente, ho 52 anni, ne ho visti parecchi, ho visto Trapattoni vincere, ho visto al Milan in 5 anni vincere 4 scudetti, una Coppa dei Campioni in capello. Giocavano come lui, giocavano come lui, tutti in difesa, là davanti prima o poi qualcuno segna, o Papen o Massaro, chi cavolo vuoi tu. È vecchio come il mondo sul sistema di giocare. Sì. L'hanno usato tutti. Evoluzione della specie. José Mourinho è grosso modo la penso così, anche se è molto bravo comunque nel gestire comunque lo spogliatoio, nel convincere i suoi giocatori, nel disegnare tatticamente le partite, molto bravo. Fuori classe Mourinho, sono su questo penso che possiamo essere tutti d'accordo. Quello che non condivido sta nel dire se io do uno schiaffo a un altro allo stadio è colpa di Mourinho che ha parlato. Questo non condivido, io credo che la colpa sia di chi dà lo schiaffo. Non condivido neanche questo estremismo che sta nel demonizzare uno che usa in maniera probabilmente senza precedenti le conferenze stampa, le parole, strumentalizza anche se vogliamo gli ambienti, strumentalizza la stampa. Il gioco però lo conosciamo bene, no? Ad esempio l'altra sera ha sbagliato la partita in maniera piuttosto netta e poi ha cercato in maniera, anche se vogliamo, verbalmente violenta di condizionare e quindi di distogliere l'attenzione dell'opinione pubblica dagli errori suoi e della sua squadra. Dunque ci fermiamo per il giornale radio, dopo torniamo, facciamo un po' di pagelle via web, questo però accadrà dopo il giornale radio e attendo anche altri interventi. 800 24 00 24, numero verde. Torniamo insieme, sempre Giorgio De Luca in redazione, saluto Filippo Aureggi che ha lasciato i comandi della regia. riprendiamo dall'umore del popolo milanista. 800240024 è invece il numero verde. Marco Borghesi dal sito ilmilanista.it, perché io voglio capire innanzitutto se il popolo milanista ha la stessa quasi comica scaramanzia di Galliani. Ciao Marco. Ciao, buongiorno. Mirko però. Mirko, giusto, scusami. Niente. Sì, diciamo che il popolo rossonero ha la stessa scaramanzia, perché comunque da molto tempo lo scudetto non arriva, quindi c'è questa, come dire, tiepida attesa verso la vittoria, senza esaltare troppo ogni piccolo passo, anche se oggi c'era già un clima di festa a San Siro. Voto allo stadio di oggi, voto a questa attesa rovinata da Pazzini. Voto allo stadio io darei un bel 8, perché si è visto uno stadio veramente festante, uno stadio che anche nei momenti in cui il Bologna poi è sembrato rientrare in partita, ha comunque sostenuto la squadra, fischiando anche il Bologna insomma nelle sue sortite offensive per cercare di deconcentrare almeno i giocatori di Malesani. Purtroppo Pazzini insomma ci ha messo qualcosa di suo per allungare insomma questo campionato, ma io credo che insomma manchi veramente poco ormai per mettere la parola fine. Sì, se ne è parlato molto, ma il voto a De Marco quant'è? Ma io darei un 6 politico a De Marco, insomma io credo che per quanto concerne la partita di oggi parlare dell'arbitro sia veramente l'ultima cosa, esatto, sono d'accordo, che si possa fare, perché insomma la partita è stata molto lineare, il Milan ha giocato, ha segnato, poi si è spento forse anche per via di un clima che ha favorito questo atteggiamento un po' rinunciatario, il Bologna è venuto un po' fuori, ma insomma l'unico punto magari può essere l'espulsione, perché comunque la partita era talmente, diciamo così, veramente dentro il rettangolo di gioco, insomma non c'erano situazioni così gravi che facessero presagire un'espulsione, insomma io poi non so bene il tipo di proteste che possa aver fatto il giocatore, ma io credo veramente che insomma l'espulsione possa essere l'unica cosa esagerata, per il resto insomma parlare dell'arbitro oggi sei politico e via insomma. Sì, sono d'accordo. Senti Mirko, l'ultima cosa, che è quella relativa all'attesa della gente milanista, ma secondo te preferirebbero, a cominciare da Galliani, festeggiare a Roma sabato oppure aspettare la partita in casa col Cagliari? Io credo che per quanto concerne la società questo problema credo non si ponga granché. Per quanto concerne i tifosi ti posso assicurare che sperano tutti nella vittoria a Roma dello scudetto, in modo da preparare poi una degna accoglienza per quanto concerne Milan-Cagliari, che sarà l'ultima partita in casa. Certo. Ilmilanista.it, Mirko Borghesi, grazie. Alla prossima. Grazie, alla prossima. Roberto Scaltriti naturalmente in regia. Intanto vi do questa notizia, perché se in Italia il campionato è finito è inutile che ci giriamo attorno con tutta la scaramanzia e cravatte gialle di Galliani del caso. In Spagna il campionato è finito e anche lì inutile girarci intorno a Mourinho piacendo. In Germania c'è già stata la festa del titolo conquistato ieri dal Borussia Dortmund. In Inghilterra meno, perché lo United oggi ha perso contro l'Arsenal a Londra 1-0, gol di Ramsey dopo 11 minuti del secondo tempo, e guardate un po', al prossimo giro c'è di nuovo il solito refrain, cioè Manchester United contro Chelsea a Old Trafford, con il Chelsea a meno 3 dallo United, che in settimana timbrerà il cartellino scontato della finale di Champions League con il ritorno con lo Schalke 04. Gianni da Parma, poi Giuseppe da Napoli. 800 24 00 24, numero verde, se volete anche sms 349 238 6666, torno volentieri agli ascoltatori. Gianni, buonasera. Buonasera, dunque io volevo parlare, ovviamente sono juventino della Juve, sì, e non credo assolutamente alla Champions League purtroppo, e c'è una fiammellina, ma penso che sia proprio una fiammellina, anche se l'Udinese ha perso, poi stasera c'è la Roma e la paura qual è? Dell'ennesimo anno buttato e soprattutto della non attrattività della Juventus sia a livello di budget, perché poi se ti manca la Champions League i soldi sono limitati, e sia a livello di voglia di un giocatore di un certo livello di venire alla Juventus, quindi sì. la paura è un cane che si morde la coda nell'ennesimo anno. Allora o si punta sui giovani trovando giocatori sconosciuti, un po' stile Udinese, non lo so, o altrimenti è difficile che un pastore, ma poi compri un pastore, cambia tutta la squadra. Cioè... insomma, pastore è un conto, insomma, io credo che passare dal Palermo alla Juventus sia comunque un bel salto, però in valore assoluto quanto lei dice è un fondamento, nel senso che se andiamo a prendere top players a livello mondiale, oggi la Juventus non sia tra i primi club nel mondo tra cui scegliere, no? Quindi è chiaro che la Juventus servono fuori classe, che alla Juventus servono dosi massicce di talento, servono giocatori anche con esperienza di vittoria, ma soprattutto serve un allenatore che conosca la strada, no? Che conosca la strada per tornare al titolo. E per questo si gira molto intorno alla questione dell'allenatore della Juventus per la prossima stagione, tra chi dice... E così dice ad esempio uno spogliatoio che negli ultimi anni, questo è uno dei problemi della Juventus, ha sempre parlato troppo, così magari vorrebbe una parte della tifoseria che, altro problema della Juventus, negli ultimi anni ha sempre avuto troppo peso, e questo non deve accadere in una grande società, che uno spogliatoio o una tifoseria, una parte della tifoseria abbiano così tanto peso nelle decisioni del club, questo non deve esistere in un grande club. Beh, si tratta prima di sciogliere il nodo dell'allenatore. Lei chi vorrebbe, Gianni? Bella domanda, perché allora a livello di, e non perché adesso voglio fare il tifoso che comanda, so che Conte è apprezzato, io oggi ho visto un pezzo della partita del Siena, il Siena che praticamente era già con un piede e mezzo in Serie A, una squadra votata, è vero che la Serie B non è la Serie A, la Juve non è il Siena eccetera, però Conte ha questa qualità non solo di essere amato dai tifosi, ma sì, di essere un vincente, nel senso che ha già vinto con la Juve come giocatore e sembrerebbe... Anche Ferrara aveva vinto con la Juve da giocatore. Ma sì, però Conte io lo vedo come allenatore più pronto, anche se dicono che non lo è, però Trapattoni nel 76, se non sbaglio, è stato preso ragazzino o poco più dal Milan, ed è stato un vincente, l'ha dimostrato nella sua storia, ma all'inizio ovviamente non lo si sapeva al 100%. Ma era una Juventus vincente, Gianni, era una Juventus vincente, adesso so, si tratta so. Di prendere in mano una Juventus perdente con tanti problemi e con la mancanza sopravvenuta di abitudine alla vittoria, quindi secondo me in questo caso bisognerebbe fare il percorso inverso, cioè prendere un allenatore, non un allenatore promettente come può essere Conte, uno che si sta costruendo la carriera, perché questi discorsi li può fare chi già è vincente. Secondo me adesso si tratta di prendere un allenatore che riesca a anche a fare il suo lavoro in sala stampa, anche ad avere credibilità nei confronti dei tifosi, dei giocatori, eccetera, eccetera. Si tratta di prendere un allenatore di grande carisma che possa fare anche un po' il capopopolo. Non è più l'epoca, secondo me, dei tentativi per la Juventus. Si tratta di fare una scelta di questo tipo, poi l'identikit fatelo da soli, da Hiddink allo stesso Benitez, che secondo me... poteva essere allenatore ideale per la ricostruzione della Juventus, mentre era del tutto fuori luogo per il momento storico all'Inter. Mancini, perché no? Perché Mancini è comunque uno che di titoli ne ha vinto qualcuno negli ultimi anni. Quindi secondo me la Juventus adesso serve un allenatore di questo tipo. Poi è una mia opinione personale. Con Conte tornerebbero ad esserci gli equivoci nei quali la Juventus è caduta negli ultimi anni. Ci fermiamo per il traffico, poi c'è Giuseppe da Napoli. Zanini, produzione Porte Hotel Tagliafuoco. Sogni d'oro, Zanini Porte. Vi presenta Strade in diretta. Rientri serali del weekend, traffico intenso e rallentato sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende e Gallarate Ovest verso la 8 dei Laghi in direzione di Milano. Si viaggia a rilento sulla 4 tra Brescia Ovest e Ospitaletto e in A4 code sul tratto urbano tra Pero e Cormano verso Brescia. Circolazione sostenuta anche sull'autosole nell'area fiorentina con rallentamenti verso Bologna tra Incisa e Scandicci. Sulla 14 Adriatica si rallenta per lavori tra Civitanova Marche e Fermo Porto San Giorgio in entrambi i sensi di marcia. A Roma è in corso il tradizionale concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni, la piazza e le zone limitrofe sono chiuse al traffico. Infine a chi è in viaggio sulla 3 raccomandiamo prudenza anche per la nebbia che riduce la visibilità tra Lauria e Lago Negro, tra Pizzo Calabro e Vibo e tra Palmi e Scilla. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento tra mezz'ora. A tempo di sport. Giuseppe, eccoci. Sì, buonasera. Buonasera. Senta, io volevo fare una proposta, sono un tifoso del Napoli naturalmente. Sì. Volevo dire, invece di fare tante battutine per le radio, perché io sono un trasportatore e quindi sento un po' tutte le trasmissioni sportive, sì, perché sto sempre sulla strada, Perché non fanno un campionato a parte e si giocano lo scudetto Milan, Juve, Inter e Roma, e gli altri poi ne faranno un altro per fatti loro? Perché? Perché si parla sempre di quelle tre solite squadre e non vengono come dire, il Napoli ha fatto un campionato stupendo con un pacchetto di giocatori che prende tipo Cavani, che è il cannoniere, sì, e prende 1,7 milioni all'anno, mentre Ibrahimovic ne prende 9, penso. Quindi vorrei dire, il Napoli comunque non se ne parla pochissimo, ma non dico solo la vostra trasmissione. Ma no, ma anche perché la nostra trasmissione anche è proprio Sky, no, visto che anche Sky non lo so, Sport, ma Radio Anch'io Sport non lo so, no, bisognerebbe chiedere a loro. Per quanto mi riguarda in particolare la domenica, insomma, sarei un deficiente se non avessi parlato ampiamente come ho fatto del Napoli questa stagione, perché la cronaca ci ha portato il Napoli alla ribalta, dunque non mi sembra che abbia poco senso dire non si parla del Napoli, anche perché semplicemente non è vero. Oggi abbiamo parlato meno del Napoli, ma semplicemente perché per cronaca il Napoli ha giocato ieri sera vincendo una partita anche piuttosto scontata con il Genoa, dunque non mi pare ci fossero grandi notizie sul fronte occidentale per quanto riguarda il Napoli. Per il resto, quanto le dice, tutto vero, ma è quasi banale dirlo, nel senso che la stagione che ha fatto il Napoli, la stagione che ha fatto Cavani, la stagione che ha fatto Mazzarri, sono lì da vedere, da leggere. Quindi, insomma, il Napoli si è messo alla ribalta da solo. Si è messo alla ribalta da solo. È chiaro che, come la classifica dice, e non racconta bugie, mancano un paio di passi per entrare stabilmente in quella elite. Anche questo è indiscutibile, come documenta l'andamento dei confronti diretti nei quali il Napoli non è mai riuscito a fare, ma anche perché probabilmente non aveva le potenzialità, quel passo aggiuntivo. Saluto e ringrazio Fabrizio Fontana, che oggi era quelli che il calcio ha tifato Milan. Esatto. Eccola. Ciao Fabrizio, ti avevamo chiamato per la festa scudetto che però Pazzini ha rovinato. Sì, non c'è problema, guarda. Sì, non c'è problema, anche perché festeggiamo due volte, perché visto che alla fine comunque i giocatori erano prefestivi, quindi ci sta, dai, ci sta, l'abbiamo soltanto diluita. Sì, ma non trovi irresistibile la scaramanzia di Galliani? Sì, è fantastico, è lui un amuleto, va benissimo. Nella festa scudetto qual è la cosa che attendi di più? Il balletto di Boateng vestito da Michael Jackson? Il samba di Robinho o cos'altro? Perché mi sembra che di spogliarelli in giro non ce ne siano. Le tifose del Milan sono rimaste abbottonate. Sì, è vero. Per trovare qualcuna che, diciamo che come donna, ci sarebbe la ragazza di Pato, diciamo. Sì. Che però di spogliare non se ne parla, no, quindi niente, no, non tantissimo in non quel tantissimo caso. Almeno sarà personale, non possiamo accedere alle sale. E invece a livello di spettacolo mi sa che un mix di balletti con Galliani che butta una sua battuta finale, direi che si va dal cabaret al ballo, mi sembra perfetto. Direi perfetto. Ascolta, ma tu non hai un po' paura che magari Milan e Inter si trovino di fronte per la finale di Coppa Italia e Pazzini possa rovinare anche quella festa? Guarda, forse è meglio che si vada al Palermo, e vai avanti tu che mi viene da ridere. No, ma guarda, sarebbe bello, perché devo dirti che un secondo prima di essere milanista io sono pro spettacolo, e quindi mi avvince il fatto di poterli incontrare ancora, mi piacerebbe, sono sempre sfide molto emotive e quindi mi piacerebbe. Senti Fabrizio, ti chiedo ancora questo, oggi non ho avuto modo di vedere quelli che il calcio, se non di sfuggita perché dovevo vedere le partite, cos'è successo? La cosa più divertente che è successa qual è stata? Ma praticamente abbiamo fatto una festa, una pre-festa noi, poi io ero in compagnia di Federica Fontana, quindi c'era già molta allegria, c'era l'allegria dei Fontanas, capisci che è stato molto carino quando lo spettacolo di Andrea Pucci, interista, no? Lui ha detto, guarda, vengono a vedermi un po' di giocatori, anche Vieri, magari Maldini, sì. E allora Simone Ventura ha detto, ah, gli ex giocatori, io ho fatto, ah sì, infatti, a proposito di giocatori, viene anche Milito. sempre nella massima ilarità e con molta allegria, permeato dalla simpatia. Permeato dalla simpatia, grandissimo. Esatto. Berlusconi è rimasto 45 minuti in spogliatoio con i giocatori, sai cosa gli ha detto? Ma io ho visto l'immagine finale sua abbastanza frame, molto immobile. Quindi non ho capito se era contento o no, perché non l'ha espresso. Forse avrebbe voluto vedere più gol, visto che ne hanno mangiati 612. Sì. Forse gli spogliatori ho detto, non facciamo cacchiate. Non facciamo cacchiate. Poi avrà chiesto ancora in giro, ma dov'è Ronaldinho? Perché esatto. Non ha giocato Ronaldinho oggi? Come mai? Come mai? È innamorato. E allora lasciamolo lì. Berlusconi innamorato, anche Barbara innamorata a quanto pare, del papero genero. Esatto, c'è una bella liaison tra calcio e amore. E gossip. È carino, sì, bello. Fabrizio, molto un abbraccio, bello. Grazie. Un bacione, ciao, forza Milan, evviva. Lorenzo, provincia di Barletta. C'è Luca da Rigione che chiede cosa ne penso dei rinnovi degli ultra trentenni del Milan. Rinnovi che ci saranno, ma con calma, perché qualche ultra trentenne se ne andrà e non vi ho detto chi andrà via dal Milan con ogni probabilità, ma magari lo sapete, Gattuso, che con ogni quasi certamente andrà a prendere un sacco di soldi in Russia, e qualche soldo lo prenderà incredibilmente anche il Milan per un affare che credo convenga a questo punto a tutti, con la benedizione pastorale anche di Berlusconi, immagino. Lorenzo, provincia di Barletta, buonasera. Buonasera. Senta, io sono un morignano, comunque non è questo il mio intervento. Volevo chiederle, premesso che per vincere all'Inter è chiaro che bisogna essere capaci di allenare anche la mente, se non soprattutto la mente, e Mourinho è, secondo il mio punto di vista, è stato l'unico negli ultimi 20 anni a capire questo. Sì, allenare l'ambiente intero, caro Lorenzo. No, non l'ambiente. Insomma, anche l'ambiente. La mente, certamente, ma anche l'ambiente per assonanza, perché l'Inter aveva bisogno di uno così. Esatto. Leonardo non è così, purtroppo è una bravissima persona, un buon allenatore, ma ha un grosso limite che non sa tenere l'ambiente. Spero vivamente che non venga confermato, perché da tifoso interista, insomma, subiremmo le squadre hanno il carattere dell'allenatore alla fine. Se l'allenatore non è quello giusto, la squadra ne risente. Quello che si è notato in questi 6 mesi di Leonardo alla fine. E a tal proposito le chiedo se secondo il suo punto di vista in Italia l'allenatore che dal punto di vista tattico, ma non dal punto di vista della dialettica evidentemente, si assomiglia più a Mourinho, non sia Mazzarri, ma solo da un punto di vista prettamente tattico, per come imposta la squadra sulle ripartenze e sulla velocità in contropiede. Questo è il mio dubbio. Perché Ovrebo? Perché Buzaka? Perché De Blecker? Perché Stark? Perché? Caro Lorenzo, non ce n'è un altro come questo, soprattutto in grado di allenare un ambiente, di tenere a bada il presidente, gli umori, i giocatori, non c'è un altro come Mourinho. Dal punto di vista tattico non saprei. Io credo che Leonardo sia un grandissimo uomo di calcio, credo che sia una persona di rara intelligenza, ma questo qui scopriamo l'acqua calda. Credo che non sia ancora un grande allenatore, credo che non esista al mondo un altro allenatore, ripeto, in grado di allenare un ambiente intero e un ambiente molto particolare come quello dell'Inter. Saluto e ringrazio invece Antonio Di Pollina, nostro amico e penna illustrissima di Repubblica. Ciao Antonio! Ciao, buona giornata. Speravo di commentare con te immagini di festa Scudetto, ma a prescindere dai colori, dai, lascia stare. A prescindere, speravo di commentare immagini di festa Scudetto per vedere davanti alla tele quali erano le tue opinioni. Invece Pazzini ha rovinato tutto a Cesena. Sì, si può anche vedere da un altro punto di vista, però... Sì, lo so. Probabilmente questa per un interista è stata la soddisfazione massima ormai che ci si può prendere da qui aver beffato per un'ora... in quel modo soprattutto, sì, No, ma sono d'accordissimo. È stata in questa stagione un po' così, è stato un piccolo sorriso, un piccolo dispetto goliardico e anche carino, se vogliamo. È stato bello per un interista, io credo, rovinare questa giornata ai cuginastri. Rimangono le immagini. Magra soddisfazione, però tant'è. Rimangono invece, a proposito di immagini di festa, quelle imperdibili della Coppa che finisce sotto il pullman. Credo che sia nella top 5 dell'anno. Sì. Ci sta anche questo, è successo anche quello. Nessuno ne ha tratto auspici particolari, ma probabilmente era meglio se non lo facevano a occhio e croce, visto come è andata a finire, come sta andando a finire per il Real la stagione. Senti Antonio, ma perché tutti hanno paura di Mourinho? Perché le parole, perché le parole fanno così paura? Beh, perché lui è un personaggio assolutamente unico in questo contesto, lo sapevamo nelle stagioni in cui è stato qui. Io cito sempre il particolare, cioè che non è un particolare, tutte le trasmissioni della domenica quando finivano le partite, in pratica niente incominciava davvero se non arrivava Mourinho ai microfoni, quindi uno che arriva a sancire una legge di questo tipo in cui a cui vanno soggetti poi anche quelli magari a cui non sta simpaticissimo, è chiaro che ha quantomeno dei numeri e delle strategie che sono assolutamente imbattibili. Lo ha dimostrato anche l'altra sera. Lui è il personaggio che se vince si bea e si crogiola nella vittoria e nelle parole della vittoria. Se perde, e magari perde anche male, perché l'altra sera ha perso male, è inutile che ci giriamo intorno, inventa una cosa di quel genere, per cui rimane una centralità assoluta e che fa passare in secondo piano tutto quanto. Nel caso specifico lui è riuscito in quel modo a far passare una roba abbastanza clamorosa, cioè il fatto che avesse perso male da favorito alla situazione, e aver perso male dopo che era finalmente, tra virgolette, poi dipende dai punti di vista, successo che il giorno prima l'allenatore avversario aveva detto: vabbè, sapete che cosa c'è, questo è eccetera. E quindi poteva tutto assumere i connotati della prima volta che si vedeva che il re era nudo. Lui è assolutamente riuscito, che nell'occasione, a inventare un tormentone che ci porteremo avanti per anni, a far balenare tutto i sospetti della situazione. Ma sono tutte cose che sapevamo già, Antonio. Lo conosciamo bene e riusciamo sempre a sorprenderci. Questa volta, secondo me, è stato inelegante, in maniera sorprendente per un uomo della sua intelligenza, perché quel riferimento a lui è stata una porcata, ma lo sa anche lui per primo, io credo. Però al di là di questo, la tattica la sappiamo già, cioè lui perde e allora alza tutta questa polvere, in modo che non è che gli chiedono: ma perché quelli in panchina, perché Kakà in panchina, e perché Higuain, perché, e invece no, alza la polvere, perché Adebayor in quel modo, e invece no, la polvere è tale per cui questa sconfitta di Mourinho, che ha perso nettamente questo confronto, sparisce dietro la polvere. Esatto. Allora, però tu dici giustamente, la tattica la conosciamo e dovremmo aspettarcela. Ora, metti che io e te e altri mille sappiamo a memoria la tattica di Mourinho, a noi sarebbe venuto in mente di citare l'Unicef in quel momento? No, non l'avremmo considerato tra le cose fattibili che stanno tra il cielo e la terra. Lui tira fuori l'Unicef, io sono davvero caduto dalla sedia, non ricordo. E quindi è vero, la tattica è quella, ce lo dobbiamo aspettare, ma lui ci mette comunque una cosa che invece non te l'aspetti. C'è chi scrive: Mourinho fa solo male al calcio, è una persona veramente squallida, oppure Mourinho non vale nulla, l'uomo Mourinho non vale nulla. Io torno a ripetere, Antonio, in un'epoca in cui praticamente le conferenze stampa e lo spettacolo della conferenza stampa, in questo momento storico in particolare, perché da Guardiola a Mourinho, a Mourinho zitto e gli altri che si alzano, in questo momento in cui la conferenza stampa anche televisivamente ha sopravanzato il campo quasi, io ti torno a domandarti: perché c'è questa paura della parola? Perché c'è questa paura? Perché Mourinho fa così paura? Fa così paura da essere odiato? Perché? Io credo, ecco, vedi. Io credo che però dipenda molto dall'unicità del personaggio. Non è che tutte le parole di tutti ci fanno paura. Ha imposto lui questa cosa. Per forza, gli altri non parlano, gli altri non dicono nulla. Non dico nulla, chi ci ha provato timidamente o comunque a dire e fare cose non c'è, assolutamente riuscito, oppure ha offerto una pallida imitazione, ed è come spesso accade in vari settori della vita sociale o meno, che c'è un unicum che scombussola i giochi e che fa dipendere poi tutto da se stesso, creando peraltro delle fazioni che somigliano molto a quello che succede in giro anche in altri campi. Sei totalmente a favore e questo può venirti anche a rubare in casa e tu sei contento e vai a raccontare agli amici: sapete, Mourinho mi è venuto a rubare in casa, oppure lo detesti a prescindere e per esempio pensi che io ho una figlia adolescente, lei credo che abbia smesso 3-4 anni fa di reagire alle avversità come ha fatto Mourinho l'altra sera, cioè, solo che Mourinho sa benissimo che l'infantilismo delle reazioni conquista parecchio pubblico, sì, e comunque fa parlare, ma io davvero in certe sue cose rivedo mia figlia 3-4 anni fa quando ne aveva 9-10 anni e non ci voleva stare a nessun costo ad ammettere una responsabilità, un errore. Sicuro. O una cosa di questo genere. Lo rivuoi? Allora, l'Inter deve uscire dall'incantesimo, Mourinho, oppure decidere di restarci per sempre. Se decide di restarci per sempre, allora conviene fargli una statua d'oro e portarselo, almeno questa storia finisce. Ma altrimenti, se non si esce dall'incantesimo, per cui qualunque cosa succeda in questa benedetta squadra, va rapportata per i prossimi 30 anni, temo, a quella stagione passata, allora non ne usciremo mai e soprattutto non c'è un altro allenatore che puoi mettere lì sperando che sia lui l'allenatore a far saltare l'incantesimo. È l'ambiente, la società, i tifosi che si devono auto decidere di uscire da questo incantesimo. Se non ci si riesce, allora ce la porteremo avanti sta cosa come una specie di angelo sterminatore che è passato e ha creato i presupposti per vivere non benissimo i prossimi 30 anni, ma non mi sembra davvero il caso di andare avanti così. Resta il ghigno beffardo di Pazzini ieri sera. Quello sì, ma se ci pensi, vabbè, a parte che io ho delle idee su come sia andata questa stagione che sono che non fanno parte del discorso. Appena il signor Maicon si è messo a fare una vita da atleta, e intendo in campo, cioè ha fatto due cross come si deve, e Pazzini, dopo aver sbagliato ignobilmente una cosa, ha capito che era il pane suo che stava arrivando, guarda caso è andato tutto a posto senza dover andare a scomodare o dire oh quanto era meglio l'anno scorso. No, due cross ben fatti con un attaccante che sa mettere in cross, a volte il calcio può essere anche semplice. Grazie Antonio, un abbraccio. Grazie a voi. Grazie, buon sempre un piacere. Ciao. Antonio, ciao, di Pollina, ciao. Ci fermiamo, poi però torniamo, 800 24 00 24, numero verde. Sono Lorenzo Spaggiari, direttore della divisione di chirurgia toracica dell'IEO. Grazie agli studi sull'anticipazione diagnostica offriamo tecniche chirurgiche innovative per i tumori iniziali del polmone. Aiutalo IEO con il tuo 5 per 1000. Campagna sociale. Testimonianza di Giovanni, pensionato. Quando ho visto lo sconto età d'avanzi ero in bici, mi sono detto: ho 65 anni e ho il 65% di sconto. Non ci ho visto più per l'impazienza e mi sono lanciato. E dopo l'impatto ci vede bene? Benissimo! La prossima volta entro dalla porta. Fino al 31 luglio da Ottica Avanzi lo sconto sulla montatura è uguale alla tua età se compri un occhiale da vista o da sole graduato. Numero verde 828 25 25. Avanzi, vedi che ti conviene. C'era una volta un costruttore disposto a tutto per lavorare. Un giorno il suo padrone gli disse di costruire l'ala più alta del castello. Lui si arrampicò, ma scivolò. E siccome non era legato a delle corde, volò. E volando di nazione in nazione, divenne il più bravo costruttore di castelli in aria. Chi è stanco di farsela raccontare, legge E, il nuovo mensile di Emergency diretto da Gianni Mure e Maso Notarianni. Parla del mondo e dell'Italia che vogliamo. Ogni mese in edicola. A tempo di sport. Torniamo insieme. Mi domando, continuo a domandarmi cosa abbia detto Berlusconi per 45 minuti suonati al Milan oggi in area, come diceva prima Fabrizio Fontana, in area prefestiva. Comunque, tant'è, ha tenuto a rapporto la squadra per il tempo che vi ho detto. Torno a parlare con gli ascoltatori invece, in attesa di leggere anche degli sms. Ma perché non è vero che il Barça gioca spesso 11 contro 10? Domanda maliziosamente un ascoltatore. Sì, è vero, ed è anche vero che molto spesso qualche giocatore del Barcellona ha una spiccata tendenza alla sceneggiata, come è successo l'altra sera, ma è successo anche in altre occasioni, ed è una cosa un po' fastidiosa. Non stiamo parlando di murignismo e murignate, però anche l'eccessivo perbenismo, mi pare, del guardiolesimo non è così divertente, insomma. Tra poco ne parliamo con Filippo Maria Ricci. Intanto Mimmo da Varese su altri argomenti, dica. Buonasera gente. Buonasera. No, volevo dire solo per quanto riguarda l'Inter questa stagione. Secondo me è stata sorpresa dal calciomercato del Milan che l'ha fatto negli ultimi giorni, perché partendo col Papastathopoulos, poi Mariettino Yepes e poi Boateng in prestito dal Genoa, quando tutti sghignazzavano è arrivato il colpo di Bremer. Sa cosa le dico, Mimmo? Che secondo me a Pazzini non gliene frega nulla di questo, però un atto di giustizia come la doppietta di ieri l'ha fatto nei confronti del Milan e dei milanisti, cioè permettere al Milan di festeggiare lo scudetto con quello che si può dire, ciò che si vuole, ma non che non abbia cambiato il vento al Milan. Ibrahimovic è stata la scintilla che ha acceso il Milan, che ha dato al Milan una convinzione che non aveva da anni. Quindi giusto, se vogliamo, moralmente giusto, anche se moralmente è una parola, in questo caso non c'entra nulla, però giusto, corretto che il Milan possa festeggiare con l'uomo che ha iniziato, che ha acceso la scintilla dello scudetto. Dica. Però l'ultima cosa le volevo dire. Sì. 15 partite dell'Inter, le prime 15, 23 punti, sono da media qualificazione dell'Europa League. Lì ha buttato via tutto il campionato. L'ascolto in radio, grazie. Chi ha buttato via il campionato? Chi ha buttato? Non ho capito l'ultima domanda, che se mi ascolta per radio non l'ho capita, quindi se vuole richiama. Però torno a ripetere, l'atto di giustizia è stato quello di permettere a Ibrahimovic di festeggiare in campo lo scudetto, perché possiamo andare a leggere i tabellini, il fatto che non sia dal 28 febbraio in campionato, i referti del giudice sportivo, però nessuno mi toglie dalla testa che quello che ha cambiato il vento del Milan sia stato Ibrahimovic e l'arrivo di Ibrahimovic. Giovanni da Reggio Calabria, che il Milan senza Ibrahimovic non avrebbe mai vinto questo scudetto. Giovanni, dica. Buongiorno Carlo. Buongiorno. Niente, volevo dirle, lei immagino abbia visto la partita l'altra sera del Madrid di Barcellona, immagino che sì. Voglio dire, abbiamo visto tutti una partita in cui Mourinho col suo tacchino, immagino quanto tempo abbia perso a mettere 10 difensori un attaccante quel poveraccio di Ronaldo da davanti da solo. Sì. Ce ne siamo accorti tutti, dico, no? C'è tutto questo uso di appunti, continue cose, e poi fare una figura praticamente. Vabbè, ma gli appunti Giovanni, gli appunti li ha sempre scritti. Piuttosto, secondo lei il Barcellona è battibile giocando a pallone? Secondo me il Real Madrid ne prende 5, come ha già fatto, se prova a giocare a pallone con presunzione. L'Inter avesse giocato a pallone con il Barcellona l'anno scorso ne avrebbe presi 3 all'andata e 5 al ritorno in 10 contro 11. E allora io chiedo, il Barcellona è battibile giocando con le sue armi? Secondo me no, da nessuno al mondo. Però penso Carlo, io voglio dire, non deve coincidere per forza col suo pensiero, sì, però sì, certo. Io penso che avrebbe fatto figura migliore il signor Mourinho se avesse fatto giocare il Real Madrid in casa. Ci ha fatto la figura dell'agnello. Ho capito, ma secondo lei interessa la figura o passare il turno? È importante la figura o passare il turno? Assolutamente no, ma conoscendo le potenzialità, voglio dire, sai comunque che prima o poi avrebbe scardinato là davanti quel Messi lì, voglio dire, e compagnia. Cioè, a questo punto non puoi stare in 10 tutta la partita, cioè sinceramente veramente. Ma guardi, io dico che Mourinho ha sbagliato la partita, ha sbagliato l'approccio, ha sbagliato anche la gestione poi della partita in corso d'opera. Con l'altra sera infatti ha perso giustamente, poi ha alzato la polvere, poi tutto quello che stiamo dicendo. Non dimentichiamo che una settimana prima in Coppa del Re Mourinho ha giocato, ha disegnato e ha reso possibile da parte Real l'interpretazione della partita perfetta contro il Barcellona. Partita perfetta che è stata quella che Real Madrid ha giocato nel primo tempo della finale di Coppa del Re contro il Barcellona. Se avesse potuto, fosse stato in grado anche fisicamente forse di replicare quella partita in Champions League, avremmo... forse staremo parlando di molte altre cose. Filippo Maria Ricci, ti prego, aiutami tu dalla Spagna. E come no? E siamo qui per questo. Allora, buon pomeriggio. Buon pomeriggio a lei. Ti faccio sentire una cosa che avrai già sentito mille volte, ma oggi è di stretta attualità. Perché Ovrebo? Perché Busaka? Perché De Blecker? Perché Stark? Perché? E De Blecker, signore e signori, ritorna arbitro di Barcellona Real Madrid martedì sera. Manca però un perché ben chiarenza, potremmo dire, no? Sì, potremmo anche dire. E lo dico con anche con il mio, in fondo col mio cuore nell'azzurro, però sì. All'andata col Barcellona lui si ricorda solo, diciamo, il quadro di Munch. Sì. Di Busquets, no? Buttato per terra con la mano aperta che controlla che venga espulso Motta dopo la sua patetica scena, come è stata patetica la scena di Dani Alves, però l'andata, gol in fuorigioco di Milito. Senti, ma quelli del Barcellona, discorso che facevo prima che voglio innestare subito così facciamo arrabbiare un sacco di gente, il guardiolesimo, sì. Molto, molto democristiano, a me piace poco, mi piace poco questo essere belli, bravi bravo, ragazzi. Bravo, perché anche perché poi posso rivelare una cosa? Sì. Si lamentano. Per esempio dei titoli del mio giornale, della Gazzetta, si lamentano di cose che scriviamo noi, sì, quest'anno due episodi ai quali io ho risposto molto serenamente, dico: se vi preoccupate di un titolo della Gazzetta, vivete molto male. Questa è stata la mia onesta risposta. Chi si è lamentato? Diciamo... L'ambiente? Gente, no, molto, molto vicina a Guardiola, gente vicina a Guardiola. E diciamo portando la parola di Guardiola. Sì. Però detto questo, quelle scenate sono inguardabili. Infatti, secondo me, Mourinho per una volta ha sbagliato. Perché lui doveva difendere l'arbitro, dicendo l'arbitro non ha fatto nulla di male, perché stava tratto in inganno. Perché adesso poi qua c'è tutta, hai visto, il Real Madrid ha sparato sul suo sito, Pepe non ha toccato Alves e tutta via dicendo. E la scena che fa Alves per me è, diciamo, io se fossi stato un giornale di Madrid avrei aperto con il tweet di Rio Ferdinand. Che no, il giorno dopo, anzi la sera stessa, ha detto: se a me mai mi vedrete uscire in barella e tornare in campo un secondo dopo correndo, sarete autorizzati a entrare coi due piedi. Per me questa è la chiave. Sì. Perché voglio dire, no, ma poi si può discutere sull'intenzione, cioè se si puliscono le intenzioni, quel fallo di Pepe, lasciando stare il fatto che Pepe avrebbe di che lamentarsi perché Mourinho, schierandolo in quel ruolo contro il Barcellona, insomma, esatto, lo ha reso l'uomo nero per eccellenza, no? Perché non può stare Pepe in quel ruolo contro quelli del Barcellona, e questo è stato forse l'errore capitale, no? Se vogliamo, tattico di Mourinho, ma di cui tanto non si parlerà mai, perché tanto le cose importanti, esatto, che interessano sono altre, che sono quelle che stiamo raccontando. Però si può punire l'intenzione, quel fallo poteva essere potenzialmente da rosso, l'avesse preso benissimo. Sì, ma c'era uno uguale di Busquets a Xabi Alonso nella finale di Coppa del Re. Detto questo, io non voglio difendere Mourinho, perché per me in quell'occasione, in quella conferenza stampa, ha sbagliato completamente. Sì, certo, è andato fuori misura, e quindi per quello, perché lui doveva difendere l'arbitro e accusando il Barcellona di teatro, perché quello è quello di cui si tratta, perché nel primo tempo Pedro con Arbeloa fa una scena orrenda, di nuovo criticata da Rio Ferdinand, sempre su Twitter, che è un ragazzo onesto, Rio Ferdinand, e incontrerà il Barcellona nella finale di Champions, e mi farà molto piacere questo, che gli dice quella è una scena raccapricciante, la definisce, quella di Pedro con Arbeloa. Però il punto è questo, il Barcellona, che tanto gioca bene e tutto, però alla fine ricorre a questi mezzucci che sono, mi verrebbe da definirli tanto italiani, se vogliamo, no? Sì. Visto che ci attaccano sempre qua in Spagna, che giochiamo in un certo modo e impostiamo le cose in un certo modo. Però l'errore capitale di Mourinho, e errore le cui conseguenze non sono ancora state valutate del tutto, è che non si può entrare in campo con un Bernabeu super carico così una semifinale di Champions giocando in quella maniera, sì, puntando allo 0-0 e sperando che entri poi l'amico Kakà, il pio Kakà, a risolvere la partita con un miracolo, lui che è un uomo di chiesa. Però non è così che si impostano le partite, secondo me, a questo livello. Sì. Questo è il peccato capitale di José, e Cristiano Ronaldo lo critica, siccome non è un giocatore qualsiasi, le sue parole hanno una eco, e la partita dopo Cristiano Ronaldo finisce in tribuna. Sì. Cioè ci sono tanti aspetti, tante conseguenze di quella partita, di quella conferenza stampa e di quella serata. Sì. E Mourinho per una volta non mi è sembrato all'altezza. Questo è lui, che è un maestro in tutto, no? Nella programmazione, certo, delle, certo, parole e dei fatti. Certo. Per una volta, secondo me, ha sbagliato sia nelle opere che nelle parole. Filippo, stai ancora un attimo, che adesso, perché? Stai ancora un attimo, perché dopo dobbiamo tornare a parlare, dopo il traffico. Giulietta, l'auto più sicura della categoria, con nuovo motore diesel JT DM2 da 140 cavalli. Vi presenta Strade in diretta. Sul grande raccordo anulare di Roma si formano code per incidente tra Sette Bagni e Bufalotta in carreggiata interna. Nella capitale è in corso il tradizionale concertone del 1° maggio in piazza San Giovanni. La piazza e le zone limitrofe sono chiuse al traffico. Rientri serali dal weekend sul resto della rete, rallentamenti in A1 nell'area fiorentina in direzione di Roma, anche per un mezzo in panne tra Firenze Certosa e Firenze Sud. In direzione di Bologna si rallenta per traffico tra Incise e Scandicci. Rallentamenti per traffico anche sulla 14 Adriatica tra Faenza e Bologna San Lazzaro verso l'Autosole. Traffico intenso e rallentato poi sulla diramazione Gallarate-Gattico tra Sesto Calende e Gallarate Ovest verso la 8 dei Laghi. In direzione di Milano si viaggia a rilento per traffico sulla 4 tra Brescia Ovest e Ospitaletto. In A4 ci sono code lungo il tratto milanese tra Pero e Cormano verso Brescia, sempre per traffico intenso. Ed è tutto, il prossimo aggiornamento con le strade in diretta tra mezz'ora. Promo 24. Ognuno ha la propria idea di libertà, ma in ogni caso con Subaru Outback è sempre al sicuro. La versatilità di un grande crossover unita all'esclusiva sicurezza Subaru. Trazione integrale permanente con 3 differenziali meccanici e motori boxer, diesel, benzina e bifuel, anche con l'esclusivo cambio a variazione continua Linear Tronic. La massima libertà di movimento su ogni terreno e in ogni condizione, anche le più difficili. E per chi vuole di più, oggi c'è Outback Limited, con protezioni crossover e sistema di attivazione automatica delle luci di emergenza. Ha un prezzo straordinario per Outback, da 35.480 euro. Da scoprire negli showroom Subaru che aderiscono all'iniziativa. A tempo di sport. Wow! Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón. Ha dado muchos títulos en Barça como asistente de entrenador, y ha sido un periodo fantástico de mi vida, y con hijo catalán que tengo y amistades ahí con mucha gente amiga en Can Barça, yo solo quiero que Barça pues que gane. ¿Te gustaría volver? ¿Por qué no? Un día, pero de momento yo no estoy interesado y tampoco creo que les estarán. Filippo. Grande, sei, grandissimo. È il Barça nel corazon. Questo non è di ieri, neanche di oggi, perché no, credo che, cioè, abbia cambiato idea, no, di qualche annetto fa. Quando due facevo, citazioni bellissime. Complimenti, complimenti. Mi avete sorpreso, che questa sia una chicca storica. E quindi, se Guardiola va via, il Barcellona ha già trovato un altro allenatore. No, perché l'anno scorso già l'aveva detto, quando dopo nella conferenza stampa pre semifinale di ritorno glielo domandarono, e lui disse: no, ormai troppa acqua è passata sotto i ponti, troppo astio, non vi amo più. No, ma sono no, lui disse: non mi amate più, non mi amate. Si è creato, esatto, non posso più tornare qua. Ma è quello un po' il discorso, io la guardo un po' più in prospettiva. Non è che gli restino poi così tanti porti al transatlantico Mourinho, eh? No, infatti basta fare 2+2, cioè basta considerare le possibilità che ci sono in giro, e non è che si può così, che si può fare dei grandi voli di fantasia. Ma a prescindere da questo, lui ha detto: più che mai Real Madrid, adesso più che mai voglio restare qui. Certo, perché il bianco ha un significato. Il bianco ha un significato. Perché no, questa la maglia è bianca, il bianco ha un significato. Oh. Florentino Perez cosa ha detto? No, aspetta, aveva anche detto che augurava a Guardiola di vincere una Champions bianca. Sì. Va bene, e cosa ha detto? Questo è il grande problema, che Florentino Perez non ha detto nulla. e sul sito del Real Madrid il comunicato ufficiale parla di appoggio totale, cioè appoggio totale a Mourinho. E questo è quello che, diciamo, sorprende di più la gente, sorprende di più un po' l'opinione pubblica neutrale. Dice, ma qui Real Madrid, come si parla tanto di signorio, che vorrebbe dire, no, l'essere signori, la casta, cioè l'essere proprio, no, superiori, il vecchio stile Juve, no, che un tempo veniva menzionato, no, in tempi non sospetti, e lo stile Real Madrid è andato un po' a farsi benedire. Però il club sembra disinteressato. Valdano è stato disattivato, che è il più signore di tutti, è stato disattivato da Mourinho. Florentino Perez è in un imbarazzo assoluto, per cui preferisce non parlare, perché se parla o è ridicolo oppure deve, diciamo, più o meno esautorare il suo allenatore, l'allenatore che gli è costato 80 milioni e che non può certo mandare via così. E quindi siamo in una situazione di imbarazzo notevole, perché poi i titoli, difficile che arrivino, sì, è arrivata la Coppa del Re. Se vi basta così, fate voi. No, sì, prigionieri di Mourinho, prigionieri. Sì, esatto. Sì, prigionieri, sì. Real Madrid prigioniero di José Mourinho. Vorrei parlare con te, rispondere con te a Rodolfo da Venezia, che ha qualcosa da dire in proposito, io credo. Buongiorno. Intanto complimenti per la trasmissione. Grazie. Comunque, diciamo che la mia opinione è che Mourinho ha fatto un intervento dopo la partita mitico, cioè penso che noi tutti qua stiamo parlando di qualcosa che se Mourinho non avesse fatto dovremmo cambiare argomento, cioè veramente. Adesso bisogna anche riconoscere che Mourinho è bravissimo anche a sviare, diciamo, i motivi geniale. In un gioco che conosciamo tutti a menadito, no? Ripeto, io mi domando e vi domando e domanderò sempre perché si ha così tanta paura delle parole, perché Mourinho faccia così tanta paura. Io non riesco a capire, non riesco a capire perché susciti così tanti sentimenti ostili. Chi lo ama alla follia, ma quelli che lo odiano sul serio. Ma perché? Filippo Maria Ricci. No, allora, ce ne sono due cose. Quando è che Guardiola si guadagna tutte le simpatie e termina di essere democristiano, come l'hai definito tu prima? Nella conferenza quando stampa, quando parla, quando dice qualcosa. Esatto. Quando finalmente perde la pazienza ed è simpaticissimo. Ed è, dice delle cose molto divertenti, quando dice qual è la tua telecamera, José, no, lo chiama così. Quello è il miglior Guardiola che io ho visto in 3 anni. È questo, sentiamolo. Aspetta, è lì, ce l'abbiamo. Como el señor Mourinho me ha tuteado, yo también le voy a tutear. Me ha llamado Pep, yo le voy a llamar José. No sé cuál es la cámara del señor José. Mañana a las 8:45 nos enfrentamos aquí en el campo. Fuera del campo y ha ganado. Lo ha ganado durante todo el año. Lo ha ganado durante toda esta temporada y en el futuro lo que va a ser. Le regalo su Champions particular fuera del campo. En el otro jugaremos o ganaremos o perderemos. Normalmente gana él. Su historia si le avala. Nosotros a veces nos conformamos con victorias. Che cavolo, ci voleva tanto, no? Ci voleva tanto, esatto, per sentire uno che parlava. Io mi sarei alzata, cioè era da applaudirlo, finalmente. Infatti, comunque, questo è il messaggio che ho inviato a chi gli è amico: dico, finalmente vi siete svegliati da questo letargo, no? Così dialettico nel quale erano caduti. Però il problema è che il giorno dopo già c'è rientrato, perché dopo non ha voluto dire niente, nessuna risposta, niente di niente. Quello gli ha detto che hanno rubato le Champions, tutto a posto, no? Lui non risponde. Non è... Però detto questo, e non è che si ha paura di. Il problema di Mourinho è che lui è bravo con le parole. Però è anche, voglio dire, ci vorrebbe anche qualcuno che gli dicesse sì, va bene, tutti gli esempi che hai fatto sono corretti, però ce ne sono molti altri in cui gli arbitri hanno fischiato a tuo favore e te ne sei bellamente dimenticato. E che gli manca il contraddittorio. Ma è sicuro gli manca, ma gli mancava anche qua da noi, no? Cioè faceva così tanta paura, e quindi mi do una risposta da solo, proprio perché non c'è un contraltare. Se fosse un contraltare, uno che in grado di rispondere come ha fatto Guardiola, allora staremmo parlando di un altro livello. Esatto. Mentre così parla nel bosco da solo, sulla montagna. Lui fa, sai, sta lì, dice che è il monaco del Tibet, no? E nessuno gli risponde e va bene. Finalmente Guardiola risponde in conferenza stampa, risponde sul campo, perché alla fine non ci dimentichiamo che hanno perso 2-0 e che la vedo dura che possano ribaltare questo risultato, e quindi finalmente c'è qualcuno che gli dice qualcosa. Però il timore, a me, detto, il timore adesso principale è quello del Real Madrid, che è bellissimo. Cioè che un club come Real Madrid sia così con le mani legate di fronte a José, dice Pep, è spettacolare. Insomma, nessuno se l'aspettava. Li ha messi in scacco un'altra volta, maledetto Carter. Grazie Filippo. Grazie a voi, un abbraccio. Alla prossima, caro Filippo Maria Ricci, meno male che ci sei tu. C'è Simone Sandi da New York per chiudere all'estero questa puntata e annodare i fili con quanto accadrà dalle 20:30 quando parleremo di basket. Ciao Simone. Sì, buon pomeriggio Carlo, come stai? Dove sei? Sono a New York in attesa di questa prima giornata di secondo turno di postseason, assolutamente interessante, soprattutto per l'incrocio incredibilmente affascinante che è quello tra Boston e Miami. E faremo un tifo infernale, almeno io farò un tifo infernale per i vecchi Boston Celtics. Sì, sicuramente hanno già vinto la partita della simpatia i Boston Celtics, ma questa l'avevano vinto dall'inizio della stagione quando i Big Three sono andati a Miami con tutta la fanfara che ne ha comportato, facendo dichiarazioni abbastanza arroganti, dicendo che volevano vincere non 4, non 5, non 6, non 7 campionati. Adesso però è il momento di dimostrare veramente che i campionati non si vincono solo a parole. È un matchup molto difficile per Miami, perché l'esperienza di Boston è... All'esperienza di Boston bisogna aggiungere anche i centimetri e bisogna aggiungere un Rondo che finalmente, dopo un finale di stagione regolare così, contro i Knicks ha fatto veramente la differenza. Sarà difficile contenerlo per la difesa di Miami. Simone, rimanendo da quella parte, siamo sicuri che l'altra serie, cioè quella tra Chicago e Atlanta, sia così scritta a favore di Rose e soci? Sì, siamo sicurissimi. Sicuri. Non credo che veramente possa succedere nulla, perché Atlanta ha tantissime lacune e Orlando ha mostrato di averne ancora di più, perché Atlanta è una squadra senza grande carattere che è riuscito comunque più o meno a quasi dominare la serie con Orlando, però non credo che ci sia, da un punto di vista dei matchup e da un punto di vista difensivo su Rose, non credo che abbia nessuna risposta Atlanta a quello che può proporre Chicago. Ultima cosa, Los Angeles con la fine della dinastia di San Antonio è in finale? Andrà in finale? È tutto da vedere, perché comunque non dimentichiamoci che Dallas è una squadra che ha almeno 10 validissimi giocatori, ha un potenziale MVP che è Dirk Nowitzki, ed è una squadra che dà fastidio ai Lakers per i tipi di matchup che hanno. E poi in finale di conference comunque in teoria l'incrocio sarà con Oklahoma City, che è la squadra rampante, la squadra con questi nuovi fenomeni che sono Westbrook e soprattutto Durant, per cui non è così scontata. Certo, senza San Antonio sicuramente i Lakers sono strafavoriti ad oggi. Certo. Per arrivare in finale dall'altra parte, e io in questo caso farò il tifo non per Mourinho ma per un grandissimo allenatore al passo da Dio come Phil Jackson. Spero che sia lui a chiudere la sua carriera con il titolo. Dalle 8:30 alle 9 torniamo a parlare di basket. Grazie a Roberto Scaltritti in regia, Giorgio De Luca in redazione. A più tardi.